24 mattino. L'Italia si desta. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Mettiamoci al lavoro anziché continuare a lamentarsi. Basta con i gufi, lavoriamo e mettiamoci finalmente a cambiare le cose. Allora, devo dire devo dire che a me questa storia dei gufi comincia, propongo modestamente un basta con i gufi, che sono animali bellissimi, straordinari, cioè ha un pochino stancato, basta con i gufi. Vabbè, insomma, basta coi gufi. Ecco, lanciamo questa modestissima proposta. Alle 6:34 minuti siamo qui, intanto, e non è da gufi, ma si è aperta ufficialmente la 71esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché la 71esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Con la nostra Miriam Lucchetti in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia, 24 mattino può partire e partiamo subito con la nostra Claire, la serranda del Parlamento. Adesso vado a prendere un caffè, poi eventualmente ci sentiamo più tardi, tanto c'è il ministro Padoan, oggi risponderà direttamente lui. Vabbè, insomma, caffè per tutti, si sa, questo è il ministro Boschi, Ministro Boschi. Allora, voglio subito salutare Marione Adinolfi, ben ritrovato. Buongiorno Gufo, buongiorno. Eccolo là, infatti ti abbiamo chiamato oggi che non c'è il campionato, dice così stiamo a posto, non devo sempre sopportare le tue litanie sulla Juve, mamma mia. Siamo in testa, siamo anche noi. Siamo appaiati, testa. Sì, infatti, è vero. Siamo in testa, caro. Da meno 40 appaiati è un grande risultato, lo capisco. Caro Adinolfi, siamo in testa, noi del Milan, voi non lo so, noi del Milan siamo primi in classifica. Appaiati con l'Udinese, quello, sì, vabbè, è il vostro destino, no. Noi maglia bianconera da tenere d'occhio, è quello. Che è questo? È un gufo. È un gufo! Milan, ti sei riconosciuto il rumore che fai, eccolo. Mamma mia, ecco. Che noia questa cosa del basta coi gufi, basta coi gufi. Saluto un altro gufo sicuro, Massimo De Manzoni, che è il vice direttore di Libero. Massimo, gufissimo. Gufo onorario, c'ha la tessera, ha preso la tessera di gufo. Non vi ha un po' stancato? Mario, non ha un po' stancato questa storia dei... No, perché siete tutti gufi e invece lui va dritto per la sua strada. Bagno di folla clamoroso. Beh, Matteo oggettivamente ieri è stato straordinario. Sì, ma chi è gufo? Io contesto questa cosa. Te che dici la settimana della riforma. La riforma l'ha fatta. Abbiamo la Boschi. Oh, mica Fanfani, la Boschi, ragazzi. C'è una che la fa le cose. Ma quale riforma ha fatto? La riforma del Senato? Ma quale? Ti è piaciuta la riforma del Senato? Ma non lo so, ma intanto è in prima lettura. Forse andrà a porto quello il 2017. È il tempo. Adesso non può fare niente. Insomma, il fatto del tempo è scritto in Costituzione. Infatti. Però l'ha fatta, insomma. Ma l'ha fatta. Gli 80 euro in busta, ce l'hai o non ce l'hai? No, io no, ma giustamente. Ah, perché sei ricco? Giustamente. Sei gufo perché sei ricco allora, Milan. Scoperto Milan. Ma guarda, sei gufo perché sei ricco. Mi viene subito un baffa, subito così, il primo a Maria di Nolfi il lunedì. Vabbè, ieri sì, bagno di folla, tutti gli articoli sulle camicie bianche, Massimo De Manzoni, tutti camicie bianche a iosa, vabbè, le esegesi della camicia bianca adesso. Però effettivamente crescono i consensi per Renzi, Massimo, nonostante i vostri attacchi su Libero. Ho letto, ma il resto la gente non legge i giornali, per cui giustamente non hanno un problema da quel punto di vista. No, questo è uno dei risultati di questo sondaggio, lo scollamento clamoroso tra la gente e la carta stampata, che si era già visto nelle vendite e si vede anche da queste cose. È vero che la maggior parte dei giornali ha sorretto Renzi fino all'altro ieri in modo acritico, dovrei dire. Ma tanto se la gente non li legge, voglio dire. Ma poi se la gente non li legge, appunto. Ascolta la radio, però. Ascolta la radio, vabbè. Allora attenzione, perché abbiamo un ruolo fondamentale. No, ma devo dire che oggi Antonio Polito fa questo commento sul Corriere della Sera. Senti un po', Mario Adinolfi, magari lo iscriveremo anche lui nella categoria dei gufi. Renzi con questa, dice, con questa aria da Blues Brothers ieri, con i Blues Brothers socialisti tutti in camicia bianca, no? È un leader al teflon, cioè hai presente quelle padelle a cui lo sporco non si attacca mai, ma non, per questo non vuol dire che lo sporco non ci sia, però lui riesce, come dire... come ti spieghi tu che man mano che la situazione è un po' difficile, lui però acquista consensi, almeno nei sondaggi? Vabbè, l'assenza di alternative, ovviamente, cioè non c'è nessuna alternativa. Quante volte l'ho detto da te dal 25 maggio che Renzi è stato eletto, però messa così. Beh, non è aspetta. Bella, se tu sei tanto bravo in politica da azzerare l'alternativa, sei anche bravo, insomma, sei anche capace politicamente. Io l'ho detto il 25 maggio, Matteo Renzi è stato eletto imperatore, perché quel livello di consenso è pauroso, in Italia non si vedeva da 50 anni. Il livello di consenso è tra l'altro concentrato, perché quello che si vedeva negli anni 50 era un livello di consenso alla DC, un partito molto composito, con mille leadership diverse. Questo è un consenso depositato nelle mani di Matteo Renzi. Se si vota domani, Matteo Renzi va al 60%, perché io voglio sapere, ma chi voti? Di Grillo? Voti Berlusconi? Voti la Lega? Non c'è niente. No, che proposta alternativa si sta facendo al renzismo? No, ma infatti che il fatto proposta è questo. Alternativa? Non c'è un'alternativa. Cioè sperare che Renzi vada male, ma qual è la risposta politica che dice no, non voglio fare quello che fa Renzi, voglio fare quest'altra cosa qua. Io questa cosa la dico da 2 settimane, io non spero assolutamente che Renzi vada male, nel senso che se questo dovesse voler dire che l'Italia va male, spero di no, insomma, spero che vada bene, però questa storia della proposta politica alternativa qual è? Da chi è incarnata? Ma è questo il punto, è una, posso dire, Massimo De Manzoni, una magra consolazione, cioè sapere che va benissimo, non tanto perché le cose vadano benissimo, ma perché o prendi questa minestra, oppure, come si suol dire, Massimo. No, non è una macro consolazione, è una tragedia, perché è una vera tragedia questa, quella che sta succedendo, perché di noi si ha perfettamente ragione. L'uomo che dovrebbe incarnare il partito di opposizione serio, diciamo così, quello che eventualmente può andare al governo, perché Grillo si è proprio autoescluso con i suoi grillini ormai da molto tempo, insomma. E Berlusconi è il primo alleato di Renzi. Sì, ma poi obiettivamente, a quell'età lì, insomma, pensare che possa tornare al governo. Esatto, non è stata trovata un'alternativa nel centrodestra. Per cui è vero, è drammaticamente vero che non c'è alternativa a Renzi, ma avere un leader in una situazione come questa, per mancanza di alternative, non è la cosa migliore che si possa augurare un paese. Lo so che mi prendo il gufo a dire così. Gufo De Manzoni. E allora Renzi, che capisce di essere il momento di maggiore entusiasmo con la gente, che nonostante le cose non vadano bene, capisce che forse non c'è un'alternativa e quindi sta con quello che ha. Renzi attacca. Io non mollo di mezzo centimetro. Non mollo di mezzo centimetro, perché se abbiamo preso il 41% non è per me, ma è perché l'Italia vuole cambiare, e noi la cambiamo l'Italia. Noi cambiamo l'Italia. Ecco, su questo Mario Adinolfi, la sta cambiando questa Italia? Si sta provando. Il livello di consenso che raggiunge, lo raggiunge perché, a differenza di tutti i governi precedenti, dà l'impressione, poi giudichiamo se è vero o non è vero, dà l'impressione di aver messo in campo un tentativo concreto di cambiamento. Io penso che questo dinamismo sia indubbio. Poi io sono convinto che lui sia passato da un ritmo molto renziano a un ritmo più leppiano, diciamo così, nelle ultime settimane, ma è indubbio che, diciamo, la sensazione che hai se tu vai al bar e parli con la gente è che comunque Renzi, vediamo tanto quello che riesce a portare a casa. Tanto cioè, non c'è l'alternativa, non c'è l'innamoramento, perché io sono convinto non ci sia un innamoramento nei confronti di Renzi, ma c'è una, come dire, affidamento di cambiale in bianco per assenza d'alternativa, che è un problema però serio. Perché non si riesce a organizzare un'alternativa? Perché anche questa è la domanda che uno deve farsi. Non si riesce a proporre l'alternativa perché le altre classi dirigenti sono statiche, il centrodestra è ancora abbarbicato a un ruolo, quello di Berlusconi, che oggettivamente ormai sostanzialmente in declino, e sostanzialmente una posizione non sostenibile anche quella, non sa rinnovarsi, non sa trovare il Renzi di centrodestra. Questo limite è un limite che non può essere banalizzato c'è chi mi scrive che ne dite di Alessandro Cattaneo, sindaco di Pavia? Ma sì, ma se è proposto come rottamatore del centro-est non è stato neanche rieletto a Pavia. Bisogna prendere i voti, ma poi la rivoluzione bisognerebbe farla contro il padre, invece Cattaneo la prima cosa bisognerebbe rottamare Berlusconi, questo dici? Ma per forza, le rivoluzioni si fanno contro il padre in questo caso qui, nel senso che... Ma come ha fatto un po' Renzi a sinistra, ha rottamato. L'unica cosa giusta che ha fatto, l'unica cosa vera che ha fatto fino adesso è proprio quella, cioè ha fatto una battaglia straordinaria all'interno del suo partito e ha preso il comando del suo partito. Dopodiché torniamo a cambiamo l'Italia col sorriso o mica col sorriso. Sì. L'ultimo che diceva così era Monti, Mario Monti, che aveva lo stesso grado di consenso che aveva. Mario Monti, eccolo il là. Peggior premier della storia d'Italia, è quello che ci ha messo nella situazione, la pezza del culo in cui siamo adesso, è l'uomo che... Andate a sfogliarvi i giornali. Aveva il consenso, era all'inizio. All'inizio era stato. Sì, però. Osannato. Però Monti. In un altro modo. E diceva la stessa cosa. Ma sì, però. Massimo non ha mai fatto un'elezione, non ha mai preso un voto. È vero che Renzi non si è mai. Non si è mai presentato alle politiche, però all'Europea ha preso il 40%. Elezione. È vero, però quello di cui stiamo parlando adesso, Alessandro, è un sondaggio che misura il suo Questo è vero, il sondaggio che era ieri sul Corriere. Che il grado di fiducia di Monti era a questi livelli, il grado di consenso internazionale e nazionale di Monti era a questi livelli, e l'uomo diceva la stessa cosa: siamo qui per cambiare l'Italia. Eccolo là, la gufata clamorosa. Scrive Luca: mi raccomando, avanti con la campagna renziana, siete un ufficio stampa allargato a Radio 24. Ma con chi ce l'ha? Con Massimo De Manzoni? No, con Mario Adinolfi sicuramente. Sei l'ufficio stampa di Renzi, ti paga Mario? No, però tu sai che io nei confronti del pubblico tuo di Radio 24 ho la mia totale disistima, insomma. Ma come? Luca, allora, la mia totale disistima. E allora insomma, traffico e ti becchi la segreteria telefonica. No, la segreteria telefonica no. 24 mattino. Milan, io ho il contratto bloccato dal 2009. Intanto il Parlamento ha riesumato le indennità degli amministratori delle mai morte province. Ali mortacci loro. Vorrei sapere per quale motivo i dipendenti statali sono gli unti del Signore, non si possono toccare, si rivolta il mondo, e se un libero professionista che non necessariamente ha un reddito a 6 zeri, ma più che altro può anche essere uno che fa la libera professione perché non ha trovato altro, deve invece essere penalizzato da tasse, sospetti, uno stato di polizia e una vita impossibile. Fatemelo sapere. Mila, mi fai morire da ridere. Comunque volevo dire, facciamo presente anche che i dipendenti statali sono da 5 anni che non hanno un aumento minimo di stipendio. Diciamo anche questo, ecco, non è una cosa nuova. I bronzi di Viace, il restauro, 10 anni a Firenze, lo ha pagato l'Italia, non lo ha pagato Reggio Calabria, e a quella donna e al trombetto di Firenze fanno schifo certamente i milioni di euro che questi bronzi di Viace porterebbero in cassa, perché richiamerebbero noi, il popolo delle mostre, quello che si sposta per andare a Firenze, che si sposta a vedere la mostra di Picasso a Milano e via discorrendo. Ma sì, io sono d'accordo con quello del Forcone, perché con ritardo, ma mi sono accorto che ci pisciano in testa e ci dicono che piove, ti rendi conto, Milan? La saper che il mondo è il disa, Ma Milan è un gran Milan, la mattina ai sesur, le va su per gli italiani, e ne quinta la rava e la fava de quel che succede. Milan è un gran Milan. Hai capito, Di Rolfi? Hai capito? Ho capito che si lagna lo statale, si lagna il libero professionista, si lagna il popolo delle mostre. Sì. E io dico, ma potete andare avanti lagnando? Vuoi lanciare, il tuo grido di battaglia dopo? Sì. Ma quell'umore piano ci sta tutto. Vabbè. Sarà che vi svegliate troppo presto, ma siete un pubblico di merda. No! Siete proprio pubblico di merda. Pubblico di merda! Pubblico di merda! Ma no! Ma devi finire, io non, poi non ti faccio le rivolte. Si lamentano, si sanno solo lamentare. Ma dopo non ti posso più invitare, mamma mia ragazzi. Allora, voglio parlare un po' di quello che è successo a Napoli, perché ho qua una persona, Maria Di Nolfi, che in passato ha detto delle cose per cui a Napoli, eccetera. Abbiamo Massimo De Manzoni, che avete titolato l'indomani dell'uccisione di questo ragazzo di 17 anni da parte di un carabiniere. Come avete titolato, Massimo? Prima di tutto l'ha ucciso Napoli. Una roba del prima del carabiniere l'ha ucciso Napoli. Prima del carabiniere l'ha ucciso Napoli. Un certo tipo di cultura. Lo so, però qua sai che si innescano tutte queste polemiche. Anch'io su Twitter ho scritto le prime domande da farsi è: ma perché si va in giro in tre senza casco, senza assicurazione? Perché non ci si ferma a un posto di blocco dei carabinieri? Anch'io sono stato subissato di critiche, eccetera. È forte questa cosa, cioè, prima di tutto l'ha ucciso un carabiniere, vedremo come, Massimo, o no? No. Prima di tutto l'ha ucciso una cultura dell'illegalità tollerata, anzi addirittura pittoresca, per la quale tutti noi diciamo, ma è successo a Napoli, a Napoli non ci si ferma col rosso perché altrimenti ti tamponano, a Napoli con il casco non te lo puoi mettere perché altrimenti pensano che stai facendo una rapina. Prima di tutto l'ha ucciso questa cosa, perché due settimane prima da uno scooter con tre persone avevano sparato contro una pattuglia di carabinieri e avevano ferito un carabiniere. Il clima di tensione che si crea in una situazione di questo tipo, se tu non ti fermi all'alt poi, ti metti in una situazione di oggettivo pericolo. Dopodiché sì. Io non dico che bisogna uccidere le persone su questo senza dubbio. Infatti è l'accusa che anch'io ho subito, a dire allora andava ucciso, ma no, che non andava ucciso, no. Però voglio dire, però effettivamente, se ti tuffi a testa in giù da 20 metri sulla roccia rischi di farti del male. Se non ti fermi all'alt in una situazione di tensione in un quartiere come quello lì alle 2:30 del mattino con un pregiudicato a bordo, insomma non è che non ti sei messo nei guai, dopodiché sfortunatamente sfociare anche in tragedia. E quello sfortunatamente no, dopo che questi guai andavano finiti al limite con un arresto, un banale arresto. Però Mario Di Nolfi, tu che ne pensi? Stai attento, perché in passato a Napoli poi... No, io ho detto quello che ho detto e lo continuo a pensare e lo continuo a dire, perché considero necessario un risveglio della cultura civile dei napoletani. La morte di un ragazzo di 17 anni è una tragedia e credo che quell'episodio sia una tragedia, e la dinamica mi fa molto preoccupare, diciamo così, sul fatto che sia stato un colpo accidentale, se devo essere sincero. Una ricostruzione mi pare un po' difficile da sostenere. Ho capito, e quindi io anche ha sparato senza tenere conto del problema che se tu spari e cerchi di mirare a una gomma o una gamba, insomma, ci devi ragionare su parecchio, insomma. Comunque questo è un aspetto della questione che non posso affrontare, che non ho gli elementi certi, diciamo, con l'impressione che la dinamica raccontata come colpo accidentale, mi sembra colpo accidentale di tiro per caso, mi sembra un po' complicata da sostenere. Però detto questo, e quindi partendo dal fatto che questa morte è una tragedia e la discussione su questa morte non la affronto, io dico quello che dico su Napoli, tanto perché il mio cognome, la mia radice, la mia vita da bambino è stata in campagna, perché la mia famiglia è campana, perché io sono convinto che senza un risveglio della cultura civile vera, che è profonda a Napoli, è profonda. Napoli è sempre stata divisa tra, diciamo così, persone di intellettualità enorme e i malamente. Il problema è che i malamente stanno diventando maggioranza in città, e questo è il problema. Senza un'adeguata risposta del contesto civile e intellettuale napoletano. il sindaco De Magistris, che forse dovrebbe fare un po' meno cavolate e concentrarsi su questa questione, anche perché dovrebbe essergli propria per la sua natura, per il suo DNA, per il suo futuro passato da magistrato. Cioè questo lavoro, un lavoro di risveglio della cultura civile napoletana, è fondamentale. Purtroppo non vedo cenni di risveglio, vedo le manifestazioni di piazza contro i carabinieri, quello proprio no. Avete ricevuto, Massimo, critiche per quel titolo? Immagino di sì, dai, qualcuno che si sarà arrabbiato, Ma un titolo che crea una posizione, che crea polemiche, non c'è dubbio. È molto più facile dire: ah, non deve morire così un ragazzo di 16 anni, siamo in grado di dirlo tutto una cosa del genere. Però dopodiché siamo appunto a capo, il prossimo ragazzo di 16 anni morirà dopodomani, perché se si continua così si creano le condizioni per continuare per tutte queste tragedie. Ma certo, speriamo di no, ma io capisco la vis polemica di quel titolo, che voleva in qualche modo affrontare appunto il problema con questo tipo di approccio, che in parte condivido, devo dirlo, lo condivido, anche se il titolo è molto molto forte. Allora io vi saluto. Sai, Maria Di Nolfi, nel salutarvi, cosa ha chiesto lì Pedro Sanchez, il nuovo bello del socialismo europeo? La domanda fondamentale, ha detto a Renzi, per risolvere tutti i problemi dell'Europa. Lui è tifoso dell'Atletico Madrid e gli ha detto: senti un po', ma Cerci è forte? Ecco, questo è Alessio Cerci, che abbiamo comprato, è forte, ha chiesto lui a Renzi. Ma sì, lo voleva al Milan, quindi è forte per forza. Guarda, mi devi fare incazzare, giusto alle 6 del mattino. Comunque siamo in testa. Grazie Mario Di Nolfi e Massimo Di Manzoni. Ciao Milan, ma quando ci prendi a noi? Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Cari ascoltatori, eccoci qui. Oh, ma mi hanno detto che c'è ancora qualcuno che si arrabbia perché vi do dei debosciati. Ma su, si scherza. Si scherza, debosciati, si scherza. Forza, dai. Con lo schema Allegri, dai, che ormai la 71esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché per l'abolizione delle province, è iniziata da un pezzo, almeno qui a Radio 24, per noi di 24 Mattino. Per voi è in forza, dai! E allora, oggi parleremo appunto di province, peraltro, dalle 9 alle 9.30, perché siamo in diretta fino alle 9.30, come sapete, ancora questa settimana, poi basta. Poi rientriamo nel nostro orario fino alle 9. E poi parleremo di quello che deve fare Renzi. Avete sentito Marchionne dire: scegli tre cose e falle. Eppure raccontava il Corriere della Sera, nonostante le difficoltà, anche ieri, che il consenso degli italiani nei confronti di Renzi è ai massimi livelli. È davvero così? Ne parleremo dalle 8.15. Con noi ci sarà Claudio Velardi, con noi ci sarà Mario Giordano, e è direttore del TG4. Avremo anche ospite Gianni Tonelli del SAP, il sindacato autonomo di polizia. Sapete che c'è sempre tensione per la questione degli sblocchi, degli aumenti della pubblica amministrazione. Ora andiamo a leggere i giornali. In questo lunedì 8 settembre, intanto, i titoli. Il Sole 24 Ore apre con una notizia che riguarda le tasse, dunque i vostri portafogli, che vedremo tra poco. Tasi, il balzo delle aliquote, questo è il titolo di prima pagina. Mentre Ferrari, rottura in casa Fiat, così apre il Corriere della Sera. Marchionne, che in pratica ha dato il ben servito a Montezemolo, definendolo non indispensabile, come nessuno peraltro. Per Repubblica invece Renzi lancia il patto con la sinistra europea, basta liti nel PD. Ed è il primo di tanti titoli dedicati a Renzi per la chiusura della festa dell'unità. Il Messaggero: Renzi, basta lezioni dai tecnici. La Stampa: Renzi, offensiva nel PD, non accetterò i veti. Il Secolo XIX, Renzi, patto per la nuova Unione Europea. Mentre anche il Giornale si concentra sulla vicenda Ferrari, caos Ferrari, via Montezemolo, Questo è il titolo di prima pagina. Le tasse, per l'appunto, la TASI, tra tutte le tasse, la tasse madre ora per gli italiani da venerare, no, da venerare no, ma da rispettare, questo sicuramente sì. E allora il Sole 24 Ore racconta come corrano verso l'alto le aliquote della TASI, il nuovo tributo sugli immobili che finanzia i servizi indivisibili dei comuni. Oltre metà dei municipi ha stabilito le regole e l'ammontare del prelievo. L'aliquota media sulla prima casa è all'1,94 per mille. Questa è l'elaborazione del CAFACLI per il Sole 24 Ore. E raddoppia quindi il livello base dell'1 per mille. Altri dati, l'85,4% dei comuni su un campione di 4.058 delibere analizzate applica il tributo sull'abitazione principale, il 51% lo richiede per gli altri immobili e per quelli affittati. Il titolo di pagina 3 con l'articolo di Cristiano Dell'Oste è questo: TASI, aliquote prima casa verso il 2 per mille, la media come detto è l'1,94 per mille, cioè ben al di sopra del livello base dell'1 per mille. Sapete che i comuni possono poi applicare addizionali. E allora il 15% dei comuni ha esentato per ora l'abitazione principale dalla TASI. Negli altri comuni il prelievo sulla prima casa è quasi il doppio del livello di partenza. Ci sono 474 municipi, sono l'11% dei comuni totali, che hanno superato il 2,5 per mille, sfruttando la chance di introdurre una maggiorazione extra fino allo 0,8 per mille. E trovate anche tutti i calcoli di quelle che potrebbero essere le case tipo e quello che dovete pagare, ma forse già lo sapete perché state smoccolando da giorni, ma d'altronde è così, insomma, vanno pagate queste tasse. Tra l'altro, come racconta il Sole 24 Ore, per l'appunto, la tassa è una tassa che serve a finanziare i servizi indivisibili dei comuni. Proprio da questo scopo della tassa parte un'analisi su Repubblica di Valentina Conte, che parte da una domanda: i comuni incassano milioni ma non dicono come li spendono. Questo è il titolo dell'articolo di Repubblica. Ecco, la domanda è questa: dove finiscono i soldi della TASI? Non è una domanda oziosa, ma giustamente Valentina Conte dice: la legge che ha istituito la tassa sui servizi dice chiaro e tondo che i sindaci devono indicare in modo analitico non solo il gettito incassato dagli immobili, ma anche l'uso che se ne fa in termini di servizi pubblici finanziati. Lo devono fare in modo chiaro e trasparente. Dunque, sui siti dei comuni, per esempio, è così? No. Per capire la destinazione del più tormentato dei balzelli, il cittadino dovrebbe essere un segugio informatico, un esperto di bilanci pubblici, rapido di calcolo, aprire così delibere, documenti contabili e programmatici, relazioni, regolamenti, bozze, chi più ne ha più ne metta. Ecco perché vince oggi l'articolo di Valentina Conte il premio Mani sul volante, l'articolo che ci fa più incazzare della giornata. Perché scrive Repubblica, non si sa come i comuni che incassano questi milioni della TASI li spendano questi soldi. A meno, forse si sa, ci diranno che si sa, ma noi lo pubblichiamo sul sito della delibera del Consiglio Comunale, che viene caricata poi sul sottosito che uno deve andarsi a cercare, eccetera. Sta di fatto che il dato di fatto è che, scrive Repubblica, non è così chiaro a che cosa servono i soldi di questa TASI, almeno comune per comune. Mentre la scorsa settimana è stata una settimana all'insegna delle polemiche per il blocco degli aumenti di stipendi della pubblica amministrazione e il conseguente sciopero minacciato, anche se uno sciopero poi non si può fare per legge, da parte delle forze dell'ordine. Oggi il Messaggero racconta con Michele Di Branco a pagina 8 che probabilmente c'è una soluzione in vista. La soluzione è questa: forze dell'ordine, sblocco degli scatti solo per i militari con più anzianità. Il governo è al lavoro è al lavoro per scongelare subito gli assegni di funzione e gli avanzamenti di grado stoppati dal governo Monti nel 2010. Messa giù in termini molto brutali, scrive il Messaggero, servono non meno di 800 milioni di euro nel 2015 per togliere il tappo che blocca gli scatti di carriera e gli assegni funzionali di 305.000 uomini delle forze dell'ordine in agitazione. Soldi che il governo non ha visto, che meno di una settimana fa il ministro della pubblica amministrazione Madia ha detto chiaro e tondo non ci sono. Tuttavia il governo, che ha attivato una war room, cioè una stanza di guerra composta da ministeri del tesoro, difesa, interni, sta cercando una mediazione. L'idea è quella di scongelare, ma solo per il 2015, gli assegni di funzione che, a prescindere dall'avanzamento di grado e carriera, spettano al raggiungimento nell'ordine di 17, 27 e 32 anni di servizio. Si tratterebbe di una specie di misura una tantum a parziale compensazione delle sostanze salariali andate in fumo negli ultimi anni. Quanto serve per questo? Servono 80 milioni di euro per coprire questa operazione, che andrebbe a beneficio di 50.000 persone. È questo l'accordo che si sta trovando? Chi lo sa? Intanto diamo uno sguardo anche alla pagina, a due articoli di pagina degli esteri, prima di andare in pubblicità, poi le rivedremo, gli esteri, anche più avanti. Beh, c'è sempre preoccupazione per quello che sta succedendo tra Iraq e Siria, dove lo Stato Islamico, come si è chiamato questa formazione anche di jihadisti, di terroristi, visto che hanno eseguito delle decapitazioni. E quindi Barack Obama ha fatto un'intervista ieri, spesso capita la domenica per quel che riguarda i presidenti americani, alla NBC News. La stampa mette l'intervista integrale fatta da Chuck Todd, giornalista americano. Alla prima domanda è: si sta preparando e sta preparando il paese a tornare in guerra, presidente? Sto preparando il paese a garantire che affronteremo la minaccia dell'ISIS. Si tratta di una cosa che sappiamo fare. Questa amministrazione ha sistematicamente smantellato Al-Qaeda. ISIS rappresenta una minaccia più ampia per le sue ambizioni territoriali in Iraq e Siria, ma la buona notizia è che tutta la comunità internazionale capisce che è un problema da affrontare. Questo è il titolo dell'intervista: sconfiggeremo l'ISIS, ma non invierò truppe in Iraq. E questo è l'altro elemento fondamentale. Riguardo poi all'11 settembre, all'anniversario che si avvicina, c'è una domanda da parte del giornalista americano: non crede che questi terroristi possano fare ciò che ha fatto Bin Laden? Non ancora, risponde Obama, ma possono evolversi. Ma allora perché non andate anche in Siria ad attaccarli? Non possiamo avere gli Stati Uniti che occupano tutti i paesi dove c'è una minaccia, quindi serve una strategia più sostenibile. Gli uomini sul terreno saranno iracheni e siriani. In Siria, per esempio, c'è il Free Syrian Army, è un'opposizione moderata con cui abbiamo lavorato. Finora è stata sulla difensiva, ma può cambiare. E poi l'ultima domanda a Obama è: si è pentito di aver giocato a golf dopo l'uccisione di Foley? Risponde il presidente americano: avrei dovuto capire l'effetto di quell'immagine, che è un modo edulcorato per dire mi sono pentito, ma... importanza della comunicazione, non risponderà mai così: sì, mi sono pentito. Ma certo, questa risposta: avrei dovuto capire l'effetto di quell'immagine. A proposito di Iraq, c'è Lorenzo Cremonesi, che è inviato in Iraq in questi giorni per il Corriere della Sera, che racconta ancora una volta, ieri sui giornali erano presenti tanti articoli, reportage molto strazianti anche di donne yazide che sono state rapite e usate come oggetti sessuali per tutte le persone che sono in combattimento lì in Siria e in Iraq. Ebbene, oggi Lorenzo Cremonesi torna sul martirio dei cristiani, racconti dei cristiani iracheni fuggiti dopo l'occupazione di quei territori da parte dello Stato Islamico. Raccontano croci spezzate, spari contro la Vergine, Meglio morire che convertirsi, dicono molti di loro. A pagina 11 c'è il reportage da Batania, nell'Iraq settentrionale. Meglio morire che convertirci, affermano così decisi cristiani iracheni sfuggiti dalle milizie dello Stato Islamico. Ve lo segnalo perché è un reportage molto molto interessante. A pagina 11 del Corriere della Sera, ora la pubblicità. Avanti amici miei, ridete dei vostri problemi. Ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, la giornata politica sui giornali viene raccontata ieri soprattutto con la chiusura della festa dell'Unità a Bologna. Protagonista indiscusso il leader del PD e il premier italiano Matteo Renzi. Ieri, per la verità, protagonista insieme ad altri quattro rappresentanti dei socialisti in Europa, vale a dire Achim Post, tedesco, segretario del Partito Socialista Europeo, Diederik Samson, 43 anni, olandese, leader del Partito Laburista, Pedro Sanchez, 42 anni, alla guida del Partito Socialista Spagnolo, è colui che ha ottenuto il maggior numero di selfie da parte delle donne per la sua bellezza, Manuel Valls, socialista, primo ministro francese, tutti immortalati insieme a Renzi in cinque con queste camicie bianche. E vi dico subito che tutti gli articoli che trovate uguali, l'analisi delle cinque camicie bianche, finiscono tutti nella carta costa, nella sezione speciale camicie bianche di oggi sui giornali. Ma a parte questo, che cosa ha detto nel giorno in cui Renzi ha lanciato il patto del tortellino? Così l'ha chiamato alla festa dell'Unità di Bologna. Beh, è Renzi che ha tuonato contro i gufi, è Renzi che dice io non mollo con le riforme. È un Renzi che, come racconta Maria Teresa Meli a pagina 3 del Corriere della Sera, ha voluto lanciare con questa foto dei cinque in camicia l'idea di un nuovo gruppo dirigente che non è più quello di un tempo, non c'è nessun uomo solo al comando. Proprio mentre è stato accusato di essere molto solo a decidere, ecco che Renzi si presenta con quattro leader socialisti europei. C'è un nuovo gruppo dirigente, questo è il messaggio che ha voluto mandare. È solo che, fa notare il Corriere della Sera, quella foto serve ad azzerare la vecchia classe dirigente del Partito Democratico, a cui vanno i più sentiti ringraziamenti. È ovvio, visto che Renzi pronuncia i nomi dei segretari che lo hanno preceduto, dedica un doppio omaggio a Bersani. Ora però c'è un tempo nuovo, talmente nuovo che il leader del PD non nomina nemmeno Massimo D'Alema, che era assente alla festa. Lui per primo, dunque, pure gli altri, il pantano delle correnti non è più possibile, basta le beghe interne, c'è bisogno di tutti. Questi i messaggi che ha voluto mandare Renzi, che infatti ha detto ai suoi prima del suo intervento ieri alla festa dell'Unità: non voglio dare spazio alle polemiche, però... La nuova classe dirigente di fatto è una classe dirigente europea, non più con le polemiche interne del PD. Comunque trovate ovunque questa foto di cinque in camicia bianca. L'articolo più interessante, per la verità, il retroscena che racconta come si stia muovendo Matteo Renzi, lo scrive Goffredo De Marchis a pagina 4 di Repubblica, a mio modo di vedere. Perché è vero che Renzi viene accusato di essere troppo solo, è vero che Renzi vuole rispondere così, c'è una segreteria unitaria. In realtà il titolo è Matteo ai fedelissimi, il giglio magico è sempre più stretto. Racconta De Marchis che dal palco di Bologna Renzi dice: io da solo non ce la faccio, ma la natura è quella, non fidarsi, non delegare, non costruire un vero lavoro di squadra. Perfino con Graziano Del Rio il rapporto personale rimane ottimo. È il mio fratello maggiore, ripete il premier, ma tutti a Palazzo Chigi hanno notato che il sottosegretario ha perso sicurezza. Le pratiche si accumulano, la funzionalità nell'ufficio ne esce indebolita e non è un caso che Del Rio un giorno sì e l'altro pure venga dato in uscita. E così, scrive Repubblica, si rimpicciolisce il giglio magico, come viene chiamato in contrapposizione al cerchio magico. Il giglio magico dell'ex sindaco di Firenze col suo studio finisce per assomigliare a un fortino. Nella sede della presidenza del Consiglio vengono fatti entrare gli amici stretti, se lo sono Luca Lotti, il ministro Maria Elena Boschi, il vice segretario generale di Palazzo Chigi Raffaele Tiscar e il portavoce Filippo Sensi. Sensi che viene definito da Renzi l'unico genio seduto qui quando ci sono le riunioni. Questo almeno racconta Repubblica, dunque di un giglio magico sempre più ristretto. Mentre il quotidiano Il Messaggero racconta come, con Marco Conti a pagina 3, Matteo, questo è il titolo, non teme l'autunno caldo. Subito nuovo Senato e Jobs Act. Così dice Renzi ai suoi, porto a casa le riforme, piaccia o meno, ai signor no, ai tecnici della Prima Repubblica che non ne hanno azzeccata una. Intorno al leader ruota la politica del 2000. Matteo Renzi, ieri alla festa dell'unità, di leader ne ha portati altri 4. I tempi delle riforme li vuol decidere lui, ma non vuole essere un uomo solo al comando, perché in un partito con il 41% nessuno può pensare di fare da solo. Sta di fatto che però sempre sul Messaggero c'è un'intervista che in qualche modo fa capire che il clima con cui vengono accolti i renziani a Roma non è dei migliori. L'intervista è ad Antonella Manzione, che è il capo dell'ufficio legislativo di Renzi e che Renzi ha voluto fortemente, era stata anche a capo dei vigili urbani di Firenze. A pagina 5 del Messaggero Antonella Manzione fa questa intervista con Barbara Jerkov e il titolo è già emblematico: accolti a Palazzo Chigi tra trappole e diffidenze. A cominciare dalla prima scena che racconta, venerdì 20 giugno, 7 giorni prima il Consiglio dei Ministri ha licenziato il decreto sulla pubblica amministrazione, Antonella Manzione lascia Palazzo Chigi deserto, va sul treno per Forte dei Marmi, torna a casa sua. Anche il treno è deserto, alle 18 comincia infatti Italia-Costa Rica ai mondiali di calcio. Ebbene, il giorno dopo su qualche giornale spunta un retroscena in cui si racconta di Antonella Manzione che se ne scappa da Roma portandosi dietro il decreto della pubblica amministrazione perché è tutto da rifare. Ecco, commenta lei, qualcuno si era preso la briga di chiamare i giornalisti accusandomi di essere andata col testo del decreto a Firenze anziché star qui a lavorare, per dirle come sono stata accolta. E racconta comunque Antonella Manzione che è tutto una sorta di battaglia anche di diffidenti, di ostacoli da rimuovere. Per esempio racconta quando ho preso il servizio il 2 maggio, venerdì di ponte, puoi immaginare, era tutto deserto, mi mettono sulla scrivania una pila di fascicoli alta così, dicendomi lunedì c'è pre-consiglio dei ministri, mercoledì consiglio. Io mi metto sotto a studiare le carte, una per una, arrivo a lunedì che so tutto, ma poi scopro che non esisteva il pre-consiglio. Insomma, se si fosse aspettato qualche giorno non sarebbe cambiato nulla. Ecco, racconta queste trappole che gli tirerebbero all'interno di Palazzo Chigi alcuni funzionari, trappole nei confronti di Antonella Manzione, segretario generale di Palazzo Chigi. Questo almeno racconta in questa intervista al Messaggero. Dall'altra parte invece però c'è un Renzi dunque ottimista, un Renzi che sfida, un Renzi che va avanti, e c'è dall'altra parte, dicevo, un Cottarelli che potrebbe lasciare già in settimana, così almeno lo racconta Mario Sensini sul Corriere della Sera, pagina 5. Si è molto vociferato del commissario per la spending review Cottarelli, che viene dato per qualcuno in uscita perché vorrebbe tornare, così ha chiesto lui a Washington, al Fondo Monetario Internazionale, a lavorare. E beh, ieri era a Cernobbio, ha detto sì, sono possibili 20 miliardi di tagli, sono i 20 miliardi che Renzi ha annunciato al Sole 24 Ore nell'intervista col direttore settimana scorsa. 20 miliardi di tagli alla spesa pubblica si possono fare, partiamo da una base di 700 miliardi, ma bisogna andare oltre, guardare oltre il 2015, questo ha detto a Cernobbio. Ma in realtà la cosa più interessante è: ma che fa Carlo Cottarelli? Se ne va? Torna in America? Ripeto, secondo Mario Sensini e secondo i rumors che ci sono in questa settimana, potrebbe essere, lo dico, la settimana decisiva per capire se Carlo Cottarelli rimarrà o no. in Italia. Pare che voglia tornare e già nel giro di 5 giorni a Washington, rientrare a Washington. Ma il suo lavoro non andrà perduto, vero Mauro Meazza? Vero Mauro Meazza? No, no, no, sicuramente ne faremo tesoro. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, buongiorno anche a te. È la settimana decisiva per Carlo Mattarelli. Ah no, scusami, pensavo dicessi per le delibere della TASI io. Questo sì, ovvio. Perché è la settimana decisiva per le delibere TASI, però non so se hai avuto già modo di allietare gli ascoltatori con questa novità. Ecco, mi chiedo scusa, allora non vorrei ripetermi, però ci tengo anche io a sottolineare, anche io ho la mia settimana decisiva, è la settimana decisiva della TASI, perché qui entro mercoledì bisogna capire che cosa succede. Intanto, come vedi, appunto, le nostre previsioni sono un po' fosche, diciamo, sono un po' da temporale delle aliquote, da grandinato delle aliquote. No, assolutamente. Noi abbiamo preso i numeri e i numeri sono quelli. Se non ci stai capendo più niente, non perché io personalmente comincio a vedere difficoltà, TASI, TARI, IUC, IMU e così via, ti segnalo che a pagina 2 oggi sul Sole 24 Ore mettiamo anche un riepilogo, un utile riepilogo, almeno speriamo che sia utile, ma quella è la nostra dichiarata intenzione per ricordare appunto quando si paga la TASI, quando si paga l'IMU, che succede con la TARI. Una di quelle cose che uno si appiccica al frigorifero e dice: oh, ma intanto sì, che la bello, buongiorno. Da ritagliare e incollare, insomma, sì. Come si faceva con le figurine, non abbiamo potuto farla adesiva come le figurine dei calciatori di una volta. Senti, mi raccomando, domani l'Organismo Italiano di Contabilità. Tu sei distratto? No, e domani c'è. Metto il vestito buono. Presentiamo un ebook con tutte le novità dei principi contabili che sono stati pesantemente rinnovati tra luglio e agosto. Abbiamo radunato tutte le novità in un ebook. Da domani sarà disponibile per gli abbonati, sarà anche offerto in vendita agli altri sul nostro sito www.ilsole24ore.com. E poi, per i risparmi sui libri di scuola, un argomento che interesserà probabilmente molte persone oggi sulle pagine di Risparmi e Famiglia, le pagine appunto dedicate all'economia domestica tutti i lunedì. Però c'è Mauro, ogni volta ripartono le stesse cose, cioè, inizia la scuola e iniziano le polemiche sul rincaro dei prezzi dei libri, no? Sembra l'Italia Però un pochino cambia, perché stavolta c'è anche il tormentone del digitale, il tablet a scuola, il tablet c'è, il tablet non c'è, cioè, ci occupiamo anche di quello, perché è bello se la polemica non resta un po' lì ferma sulle solite posizioni, che si evolve un po'. Certo, si evolve un pochino. E stai attento alle valvole termostatiche. Ti ho sorpreso? Sì, effettivamente sulla valvola termostatica un po'. Perché tu mi stavi sottovalutando la valvola termostatica. Ma per carità, io massimo rispetto. Certo, no, è così. D'altra parte sei preso la tua bella fotografia che abbiamo messo nella pagina, peraltro dedicata alla moda e allo stile, quindi non so bene perché abbiamo messo la tua foto. No, infatti, questo è uno scherzo. Anch'io. La valvola termostatica, caro mio, sta diventando obbligatoria perché ha il riscaldamento centralizzato. È un processo lento, ma arriverà. Intanto in Lombardia segnalo che siamo già partiti appunto dal agosto con la richiesta delle valvole termostatiche. Ottimo. Tutto questo dove l'ho letto? Su Norme e Tributi, ma è ovvio. Ma certamente, Norme e Tributi nelle pagine di lunedì di Norme e Tributi. Io sono qui a condurvi per mano attraverso la selva oscura delle vostre rabbie, dei vostri odi, delle vostre umiliazioni. E allora alle 7:47 minuti continuiamo nella lettura dei giornali con la rabbia di Marchionne, numero uno della Fiat, che ha lanciato davvero una polemica nei confronti di Montezemolo. Il tema è la Ferrari che non vince da 6 anni, soprattutto avete sentito nel giornale radio Marchionne, che era ieri presente a Cernobbio. Marchionne che ha detto anche, per quel che riguarda la sua lettura politica, a Matteo Renzi il consiglio: scegliete 3 cose, realizzatele e poi passate alle 3 successive. Questo è il consiglio che ha dato Marchionne, ma soprattutto la polemica, infatti, è finita in prima pagina di Corriere Repubblica, e la rottura in casa Fiat sul tema Ferrari. Marchionne dice: Montezemolo non è indispensabile. Poi lo sfogo soprattutto è sulla questione dei 6 anni senza vittoria, e anche ieri a Monza un disastro per quel che riguarda le Ferrari. E dice Marchionne: siamo al servizio dell'azienda, abbiamo, per quel che riguarda la Ferrari come Formula 1, i migliori piloti, box di una qualità eccezionale, ingegneri che sono veramente bravi, e vedere che non vinciamo dal 2008, no, non si può. Ovviamente si parla di resa dei conti, anche il giornale Marchionne scatenato ne ha per tutti e liquida Montezemolo che viene in qualche modo... Vengono raccolte alcune delle frasi di Montezemolo, almeno in quelli che vengono definiti retroscena. Federico De Rosa ne parla, pagina 9 del Corriere della Sera. Alcune frasi che vengono attribuite a Montezemolo in questa replica è: lo sfogo di Luca, fine di un'epoca, l'amara verità è che così la Ferrari la fanno diventare americana. Questa è la replica in quello che viene definito dal Corriere della Sera un addio amaro. Le parole di Marchionne non lasciano margini di incertezza. Luca Cordero di Montezemolo tuttavia sente di non avere le responsabilità che si vede attribuite. Per questo è amareggiato, racconta chi ha raccolto il suo sfogo. Tra l'altro, in cuor suo, Montezemolo dà anche questa frase: è finita un'epoca, la verità è che ormai la Ferrari è americana. E qui parte un altro spezzone del film, certo, un film che avrà altre puntate nei prossimi giorni, per quello che è questa vicenda, certamente che porterà a qualche cambiamento in casa Ferrari. Se vogliamo tornare sulle pagine internazionali, mi hanno colpito due vicende. La prima è la vicenda della Scozia, la Scozia che tra 10 giorni va a votare sull'indipendenza, perché tutti i quotidiani raccontano, sia dalla Gran Bretagna ma anche con riflessi in Italia, che per la prima volta nel primo sondaggio sono in testa gli indipendentisti. Eccolo qui per esempio Michele Farina, a pagina 15 del Corriere della Sera: Scozia sorpasso indipendentista. E ci si chiede, sarà uno scacco alla regina dopo 307 anni? Il panico a Londra, tanto che Cameron ha offerto subito più autonomia. Ha mandato George Osborne, ministro delle finanze, in TV agli studi della BBC ad assicurare un piano di nuove concessioni alla Scozia. Poi è andato lui stesso nel castello di Balmoral per una foto opportunità con la regina all'uscita dalla messa. Insomma, paiono abbastanza disperati in Gran Bretagna, in Scozia gli indipendentisti che dicono: vabbè, ma questa è come una bustarella, ha tuonato il leader indipendentista Alex Salmond, cioè promettere ora più indipendenza a 10 giorni dal voto. I politici di Londra sono nel panico. E effettivamente anche Repubblica titola così il sondaggio: shock, vincono gli indipendentisti e Cameron rischia anche il posto su questo sondaggio, che rischia davvero di cambiare la fisionomia della Gran Bretagna. Ora, rimanendo sulle notizie dagli esteri, purtroppo c'è una notizia pessima che arriva invece dal Burundi, da vicino alla città di Bujumbura. Come racconta il Corriere della Sera, sono state uccise nelle ore scorse 2 missionarie italiane. Erano impegnate in Burundi da anni. Si tratta di Suor Olga Raschietti e Suor Lucia Pulici, entrambe missionarie saveriane impegnate nel villaggio di Kamenge, racconta Riccardo Bruno a pagina 17 del Corriere della Sera. Lucia Pulici, missionaria saveriana, da 6 anni era impegnata a Kamenge, villaggio nella zona della città di Bujumbura. Il compito era difficile, una clinica psichiatrica della locale parrocchia tenuta dai Fratelli della Carità. E ieri forse proprio uno di quei malati ha colpito a morte Suor Lucia Pulici e la consorella Olga Raschietti. È successo nella notte scorsa, e infatti nelle ultime ore il sito internet della diocesi di Parma ha dato questa tragica notizia. Oggi in Burundi, presso la loro missione di Kamenge, sono state uccise due sorelle missionarie saveriane. Le circostanze sono ancora oscure, ma sembra che il loro omicidio sia il tragico esito di una rapina da parte di una persona squilibrata. Questo lo trovate sul Corriere della Sera e lo trovate su Repubblica. Mentre lo sapete che da giorni tornano gli articoli, e speriamo non tornino anche le puntate di Porta a Porta, ma non lo so, sul processo di Garlasco. Perché si riaprirà l'appello e ci sono Il Giorno, ma anche Repubblica, che dedicano una pagina intera agli nuovi indizi che metterebbero sotto accusa Alberto Stasi, unico indagato, unico imputato per la uccisione della fidanzata Chiara Poggi. Si parla di foto con graffi sul braccio che c'erano all'epoca e che all'epoca non furono viste come foto e che ora invece spuntano nuovamente, dai graffi sul braccio, la bicicletta, la lunga scia dei misteri. Repubblica invece dice ci si deve concentrare su quel viaggio a Londra fatto poco prima dell'omicidio. Il giallo di Garlasco, la soluzione va cercata in quel viaggio a Londra, spuntano i nuovi indizi anche Repubblica con Paolo Berizzi a pagina 17, mentre io pigno a pugni il microfono, ma tutto a posto. E comunque chissà se ripartirà una nuova vicenda su questo processo infinito. Mentre siamo al momento conclusivo, la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi, stravince Riccardo Bruno sul Corriere della Sera, un'intera pagina quasi per la dichiarazione in ginocchio di Martina Navratilova, grandissima campionessa ex mondiale di tennis, che in ginocchio ha chiesto alla sua compagna, tra tweet, diretta TV, durante gli US Open, di sposarla. Ma chi se ne frega? Ma mezza pagina sul Corriere della Sera! Oh, il pubblico! Ascoltate me in questo istante, perché meno del 3% di voi altri legge libri, capito? Perché meno del 15% di voi legge giornali o riviste. 24 mattino. Mettiamoci al lavoro anziché continuare a lamentarsi. Basta con i gufi! Lavoriamo e mettiamoci finalmente a cambiare le cose. Prendiamo lo spirito e l'energia dei nostri nonni. E allora è Matteo Renzi che ieri ha chiuso la festa dell'unità a Bologna, che rispolvera così la sua vecchia battaglia contro i gufi. Una festa alla quale, tra l'altro, Renzi che fa? Viene accusato di fare tutto da solo, e lui si è presentato con quattro bei ragazzotti, tutti in camicia bianca, un po' stile Bruce Brothers, per la verità. Sono gli altri leader dei partiti socialisti europei, francese, spagnolo, tedesco e olandese. Come dire, vedete, non faccio tutto da solo, la squadra è questa. Certo, però, c'è un sottile messaggio. La squadra è questa, appunto, quella europea. Non certo il Partito Democratico Italiano, le sue beghe, le sue divisioni, eccetera, ma l'Europa. Raccontava ieri il Corriere della Sera, sondaggio di Nando Pagnoncelli, che il consenso degli italiani nei confronti di Renzi è salito al 64%, cioè 3 in più rispetto all'ultimo sondaggio di luglio. Questo nonostante l'economia non vada bene, l'Italia non è certo un paese che navighi nell'oro, in questo momento i segnali di ripresa non ci sono, il lavoro continua a mancare. Il tema appunto è perché allora c'è questo consenso, almeno nei sondaggi, perché evidentemente l'alternativa non c'è. Oggi Antonio Polito sul Corriere della Sera racconta questa immagine. Renzi sembra quei leader al Teflon. Avete presente quelle padelle antisporco, no? Quelle sulle quali, sulla cui superficie lo sporco non si attacca. Non vuol dire che lo sporco non ci sia, ma lì non si attacca. Come dire, l'Italia ha mille problemi, ma Renzi nei sondaggi, nonostante ciò, va bene. Perché? 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. Voglio salutare Mario Giordano, il direttore del TG4. Buongiorno, direttore. Buongiorno a tutti. Così come saluto Claudio Velardi. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora, Giordano, intanto la categoria, a me la questione dei gufi un pochino comincia, cioè, un po' a stancare, nel senso non se ne può più addirittura non se ne ma può no più. Io sono in ribellione contro il criterio contro il concetto di gufi, perché ormai ti trovi da qualsiasi parte che ogni tipo di critica è allora sei un gufo, sei contro l'Italia. Sì. No, non è così. Io vorrei ricordare che 7 mesi fa ormai, quando Renzi fece con quella manovra di Palazzo che tutti ricordiamo, esautorò Letta e andò a Palazzo Chigi, lo giustificò dicendo che c'era una grande urgenza di fare subito delle cose. E sono passati 7 mesi e siamo arrivati al cronoprogramma dei 1000 giorni. Ecco, mi sembra che ci sia una cosa. Allora, se uno dice che bisogna fare delle cose, come mi sembra abbia detto ieri Marchionne a Cernobbio, come dicono tutti, immediatamente essere diventare un gufo è una cosa, io la ritengo avere un modo di ragionare insopportabile. Insomma, questo non piace. Però nei sondaggi, appunto, Renzi va bene. Questo sondaggio è il 64%, è un sondaggio che ti fa fare che riflessioni, direttore? Mi fa fare riflessione, ma quello che dicevi tu prima, cioè non c'è nessuna alternativa. A me l'immagine dell'eletto stamattina Polito con l'immagine del tempo, a me veniva in mente nei giorni scorsi un'altra immagine, quella della boa, cioè nel mare in tempesta con un paese sulla rotta del naufragio, Renzi è una boa a cui tutti sono attaccati, non si capisce bene dove vada, però sono attaccati lì perché se si staccano annegano, cioè Renzi sta lì anche col consenso perché non c'è nessuno che faccia vera alternativa, non ce l'ha né all'interno del suo partito né dall'altra parte, cioè nel centrodestra che non ha nessuna, non fa un'opposizione vera perché non c'è nessuna alternativa in questo momento a Renzi. E nello stesso tempo, aggiungo la seconda cosa, Renzi guadagna in popolarità proprio perché non fa nulla di quelle riforme, l'ha scritto benissimo la scorsa settimana, avete parlato Ricolfi, di quelle riforme radicali che purtroppo bisogna guadagnarsi anche un po' di impopolarità per cambiare il paese, sì, perché il paese non si sembra quasi un ricatto, cioè siccome non c'è alternativa io intanto vi tengo in questa situazione di stand by, non scontento nessuno e quindi il consenso cresce, tanto voglio dire posso fare o posso non fare dove volete andare. Questo è no, lo mettono sotto forma di ricatto, cioè lui fa giustamente il suo, poi è molto simpatico, molto bravo, anche l'idea delle camicette bianche, camicetta bianca la trionferà, è bellissima, cioè il patto del tortellino, cioè è anche molto non la metto sotto forma di ricatto, dico solo che per cambiare il paese bisogna incidere. Allora noi abbiamo passato l'estate a parlare per esempio delle famose partecipate, no? 8.000 e abbiamo fatto i conti, sì. Abbiamo fatto i costi e i polli del Molise che ci costano cari, il casino di Venezia, abbiamo fatto elenchi, paginate eccetera eccetera, poi siamo arrivati tutto. Alla Consiglio dei Ministri ed è slittato. Ora abbiamo avuto 3 commissari alla spending review, prima avevamo avuto Giarda, prima ancora avevamo avuto la commissione Giovannini, abbiamo avuto 3 commissari, 2 commissioni, i tecnici eccetera, è possibile che siamo arrivati un'estate di lavoro, Cottarelli ha fatto su quello, siamo arrivati ed eravamo impreparati al taglio. No, soprattutto vabbè, citi Cottarelli che oggi racconta il Corriere della Sera, pare proprio questa settimana possa andarsene a Washington, nel senso che lui ha chiesto di tornare al proprio lavoro al Fondo Monetario Internazionale, Renzi lo vuole tenere, chissà se lo vuole tenere, ma comunque pare che possa finire anche questa avventura di Cottarelli. Però voglio invece andare da Velardi, che sapete da mesi qui ai nostri microfoni, ogni tanto lo chiamiamo e dice che i giornalisti insomma hanno una lettura. Ma partiamo un attimo da questo. Allora, questo mo c'ha il 64% dei consensi, sì, lo Giovanotto. Così pare. Ma nei media italiani chi è che rappresenta quel 64%? Nessuno. E sai perché? Ma per un motivo. Perché tutti possono criticare ferocemente Renzi, tanto non ci perdono niente. Nessuno chiede all'editorialista di stamattina o a quello di ieri e dell'altro ieri, scusa tanto, ma tu in questi mesi cosa avresti fatto o faresti al posto di Renzi? E il problema è che nessuno lo sa che cosa fare contro questa crisi devastante europea e un po' mondiale. Non sa Obama come deve affrontare la crisi con l'Islam, non sanno i leader europei come rimettere in moto il meccanismo dello sviluppo, non lo sa nessuno. Beh, oddio, un po' di ricette, per esempio, di tagliare la spesa pubblica, quelle dette dallo stesso Renzi. Ma quando, allora, qual è il punto? Perché dentro questo 64% di consensi ci sono gli italiani sono saggi e furbi, perché sanno che Renzi non ha alternative e quindi gli dicono lasciatelo là per cortesia, anche perché poi non vogliono che torni nessuno dei vecchi, nessuno. Questo, okay? È vero, questo però è vero. Poi sono anche furbi gli italiani, quindi continuano ad essere gli italiani di sempre, quelli che pensano che si deve cambiare, ma deve sempre cambiare il nostro vicino, non dobbiamo cambiare noi. Quindi si salvano la faccia con Renzi, poi si lamentano, annunciano gli scioperi, le proteste, si comportano come sempre gli italiani. Però Velardi, visto... E qui la difficoltà di passare dal consenso a, diciamo, azioni più incisive. Allora è giusto quello che dice Giordano e che dite, anzi che diciamo tutti quanti noi. Certo che bisogna tagliare la spesa pubblica, bisogna tagliare le partecipate. E cosa impedisce di incidere veramente, visto che allora, di alternative non ce ne sono? Sai cosa? Allora, invece di fare gli editoriali sussi sul leader al Teflon, il Corriere della Sera, che ha lo stesso direttore, grosso modo sì, insomma lo stesso, perché si danno il cambio de Bortoli e Agnelli da 20 anni, ok? E annuncia il cambio del direttore da qui ad aprile. Cioè noi siamo il paese che per cambiare il direttore di un giornale ci mette 7 mesi. Vabbè. Il giornale dove sono seduti tutti i cosiddetti capitalisti italiani. Chiaro? Qual è il punto? Bene. Corriere della Sera faccia, e tutti quanti, Giordano al TG4, la Repubblica, facciano una campagna incessante perché Renzi tagli domani le partecipate. E parlino solo di questo, parlino solo di questo, cosa che non fanno mai. Io li leggo gli articoli su sui giornali. Giordano, sì, non so, sei difensore poi, delle partecipate. Ma poi, il giorno dopo, oggi i giornali sono pieni di camicie bianche. Sì, questo gli articoli sulle camicie bianche lasciamoli perdere. Lo sapevo, su tutti i giornali trovate paginate sulle camicie bianche. Io non voglio assolutamente fare il difensore della categoria, l'ultima cosa che voglio fare. Perché sono molto critico sulla mia categoria, però adesso il fatto che sui temi dei costi pubblici, delle partecipate in particolare, abbiamo fatto valanghe di cose, l'abbiamo scritto da 3 anni che almeno che scriviamo, che facciamo gli elenchi, ma altri temi, e voglio dire, le province, ne vogliamo prendere un altro, le province ci hanno lo sapevano tutti, ne parliamo alle 9, ma tu ne parli regolarmente tutti i giorni, è la più colossale presa per i fondelli che no, perché poi dicono sei ossessionato, ma questo però non è vero, scusatemi, che c'è Velardi, perché non è vero? Semplicemente che non è vero, perché per le province non si va più a votare. Ma ho capito, hai detto niente, attenzione, però il problema è i costi, non è il voto, qui si toglie il voto e si tengono i costi, ma intanto ti tengono i costi, il problema è tagliare i costi. Ragazzi cari, voi tagliare i costi significa tagliare i dipendenti delle province, ok? Qualcuno è in grado di farlo in questo paese, cioè di prendere i dipendenti delle province e di dire voi andate a casa? No, perché quei dipendenti naturalmente vanno messi alla regione o ai comuni, o devono andare da altre parti, cose che mi pare si stanno piano piano facendo, con i tempi dell'Italia, con i tempi dell'Italia per cui tutto deve passare 2 o 3 volte tra una camera all'altra, e lui intanto sta riformando anche il Senato. Allora io prendo per buonissimo il fatto che non si vada più a votare per le province. Nel frattempo faccio campagne incessanti perché i costi delle province quantomeno non diminuiscano, i dipendenti vadano a fare altre cose magari utili nelle regioni o nelle province e così via. Sai cos'è il problema, Velardi? Che noi stiamo parlando di una roba, di un paese che da 22 anni ha un'economia totalmente stagnante, perché noi siamo in depressione da 22 anni, non da ieri, e di un governo nuovo che sta lì da 6 mesi, ma vi rendete conto della follia del nostro ragionare? No, ma la questione, cioè, io perché conto le settimane? In sei mesi questo ha fatto, ma quello va benissimo. Ma no, ma io le conto le settimane decisive per le province, scusa Velardi, io le conto, siamo alla 71esima settimana, che non è una settimana a caso, da quando il signor Enrico Letta, quindi non Renzi, il primo giorno di Parlamento, quando ha chiesto il voto, si è insediato, ha detto aboliremo le province, ma non è che... Siccome non me lo sono inventato io le parole aboliremo le province. Allora, quello è un altro tema, però attenzione, quello è un tema che riguarda il marketing dei politici. Vabbè. Allora, è che non ho che però ha ragione. Meno marketing e più fact-checking. No, non sono d'accordo. Molto marketing, che il marketing ti consente di spingere sui problemi e prima o poi di rompere i muri. Ci sono. Quindi il marketing non va disprezzato, poi al marketing devono seguire i fatti. morti, e per quello sto giovanotto mo si prende 1000 giorni, sì. Ed è comprensibile, perché certo che per cambiare, appunto, per vedere del tutto smantellate le province, per fare in modo che i palazzi delle bisogna province vadano ad altri, vadano venduti, cioè bisogna fare tante di quelle cose, so. Appunto, bisogna cambiare la Costituzione, ci vogliono i tempi che ci vogliono. Quindi io da questo punto di vista, ripeto, andiamo alla sostanza, la critica dei media è sacrosanta, perché quello è il mestiere che i media devono fare, ma deve essere una critica, usiamo una parola un po' desueta, costruttiva, ecco, nel senso che deve servire ad andare a scavare nei problemi e cercare di risolverli a poco alla volta, perché poi inevitabilmente... Ma è chiaro, è questa la critica, fermo da 20 anni, no, ma è chiaro, Giordano, cosa c'è di costruttivo che non fai? Cioè, sono critiche e basta, e questo è, questa è la critica di Velardi. Io credo che se alcuni di questi temi sono diventati agenda politica, compresa quella delle province, compresa quella del sistema previdenziale che non regge, compresa quella dei vitalizi, che fortunatamente, anche se anche qui con tempi troppo lenti, secondo me si mettono di giorno, è proprio perché se ne è cominciato a parlare sui giornali, dei libri, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che da questo punto di vista, non volendo difendere assolutamente la categoria, però credo che questi temi, io ricordo le prime volte che parlavamo di pensioni d'oro, di sanguisù, che ci guardavano tutti storti, diciamo che eravamo dei gufi, pre-gufi, cioè le cose, nemici, e quindi vuol dire, da questo punto di vista io credo che questi temi siano diventati di attualità. Detto questo, ribadisco il concetto, è vero che per fare le cose ci vuole del tempo, però è vero anche che l'Italia in questo momento di tempo ne ha poco, occorre forse un passo che sia meno di marketing, meno di annunci e più di sostanza, perché in questi 7 mesi di fatto le abbiamo contate le cose, sono gli 80 euro che non sono serviti a rilanciare l'economia, il primo passo alla riforma al Senato, stop, di fronte a una cosa che c'era una grandissima urgenza, ripeto, non l'ho detto io, è stato fatto un passaggio anche piuttosto ardito per la democrazia, cioè il terzo governo non eletto che va su in modo per dire c'è una grande urgenza, dopo 7 mesi dire vabbè ma bisogna andare con calma perché l'Italia è l'Italia, quindi l'Italia, ma proprio perché siamo di fronte a una situazione straordinaria, forse bisogna avere un passo anche passo nel più. Farle le cose. Sì, anche se il passo poi di pie veloce Renzi è stato criticato all'inizio quando aveva il passo veloce, dice allora ho un passo un po' più lento. Comunque mi interessa anche il parere degli italiani, 800 24 00 24, dopo la pubblicità. Io non mollo di mezzo centimetro, non mollo di mezzo centimetro. Perché se abbiamo preso il 41% non è per me, ma è perché l'Italia vuole cambiare e noi la cambiamo l'Italia, con il sorriso sulle labbra, ma la cambiamo. 24 mattino. Eccoci qui con Claudio Velardi, con Mario Giordano e con gli ascoltatori per parlare di questo Renzi e di questa Italia che deve risollevarsi, con Renzi al 64% di consensi. Questo almeno certifica in un sondaggio ieri il Corriere della Sera. Sentirei Lina da Modena, ci chiama. Buongiorno Lina. Buongiorno, salve. Dica. Niente, io ho la sensazione che, penso che molte persone abbiano la stessa opinione, che siamo purtroppo un popolo di creduloni e ci crediamo almeno fino a poco tempo fa credevamo tutto ciò che veniva detto dai politici o comunque dall'ultimo arrivato. Renzi mi sa tanto di una persona ultra positiva che però effettivamente non mette in pratica tutto ciò che dice. Lei crede a questa storia del fatto non c'è un'alternativa a Renzi e quindi gli italiani in qualche modo si abbarbicano un po' a quello che c'è? Ma io non credo che non ci sia un'alternativa, però non so quale sia l'alternativa. Non la vede. No, l'alternativa, per carità, un'alternativa c'è sempre, per carità, c'è sempre. Però lei non la vede. Lei non come la vede. Secondo me la maggior parte di noi italiani che... Purtroppo un po' siamo spinti ad essere creduloni, un po' anche per modo di essere, non lo so, per modo di essere. Un po' risparmiatori. Comunque credere un po' meno e chiedere sempre più fatti che parole. La ringrazio. Vorrei andare da Marcello, a Milano. Buongiorno Marcello. Buongiorno Milan. Dica. Io credo che gli italiani ci sperino prima di tutto e poi ci credano, perché se Renzi si è trovato sulle spalle 800 miliardi di spesa pubblica da gestire, mi chiedo come sia possibile pensare che in 6 mesi aveva risolto i nostri problemi. Ora ci stupiamo che dica è un lavoro da fare in 3 anni. Quando un'azienda va male, Milan, quando un'azienda va male, ci vogliono 2-3 anni a girare un conto economico. Quando uno Stato incagliato da 22 anni va malissimo, ce ne vogliono di più. Ma scusate, ma mi stupì, Mario Giordano non ci crede, però i mercati ci credono. Noi, guardate lo spread cos'era non un anno fa, 6 mesi fa. Abbiamo uno spread fisiologico, guardate che lo spread non è tutto nelle mani di Mario Draghi, è nelle mani dei mercati. I mercati osservano, credono in certi tipi di messaggi, ma anche in certi tipi di comportamenti. Poi Renzi può essere simpatico, no, a me neanche lo è, ma non c'entra nulla. Cioè lui sta facendo una serie di... È un lavoro, dice, lungo e complicato. Che però lei dice, Marcello, i cui effetti si vedono già un po' sui mercati. Non dica Mario Giordano di parlare di mercati, Europa, finanza, che poi l'ultimo libro di Mario Giordano, ne avevamo parlato, è un libro insomma prepotentemente e potentemente contro l'euro e contro questa Europa. Però dice Marcello, i segnali ci sono positivi, Giordano, non si cambia uno stato dal giorno all'altro, che è un po' quello che ci dice anche lui. Sono convinto che i mercati siano parte del problema, meno stare in questa Europa, il fatto che dopo il successo elettorale la prima dichiarazione di Renzi sia stata la Merkel è il mio modello, è uno dei problemi, ma è che il lavoro sia lungo, è inevitabile, però è anche vero, visto che da lì eravamo partiti, che bisogna vedere dei passi reali e concreti. Io dico che in questi 7 mesi, l'abbiamo fatto la cosa prima, di annunci tante, di parole tante, a me al contrario Renzi è molto simpatico, è molto bravo, è positivo, ha un'immagine positiva, buona per l'Italia da questo punto di vista, però io credo che il compito di chi fa il nostro mestiere è vedere che cosa c'è dietro gli annunci, e non si può sentire dire del gufo se dopo, dietro gli annunci di aboliremo le province, poi le province non vengono abolite, se dietro l'annuncio di rifaremo il Job Act in 6 mesi, il Job Act non è neanche ancora stato presentato con un articolato completo, eccetera eccetera. Se di fronte a questa osservazione si viene bollati come gufi, secondo me è sbagliato, anche perché, ripeto, è un'azione di pungolo necessaria e fondamentale. Ma è chiaro che all'inizio, anche perché gli italiani sono già stati presi per i fondelli tante volte, e quindi è un compito fondamentale. Il criterio del gufo è inaccettabile. L'idea è che forse è stata messa troppa carne al fuoco all'inizio, per cui gli italiani dicono: oh, accidenti, Velardi, questo qua fa le cose sul serio e le fa in 448, finalmente lo abbiamo trovato uno che... E invece poi dopo si è scontrato. Lui ha messo tanta carne al fuoco perché aveva bisogno di consenso, anche con una strategia di marketing molto aggressiva. Il consenso lo ha avuto, continua ad averlo, e adesso tutto questo marketing deve diventare ovviamente roba concreta, devono diventare riforme, e ci vogliono per questo degli anni per un paese stagnante da tanti anni. Questa è un po' la sostanza. Io vorrei aggiungere ai risultati quei pochi o molti che sono stati raggiunti, uno che però è il più importante di tutti, questo non bisogna dimenticarlo. Renzi ha cambiato irreversibilmente la classe dirigente di questo paese, cioè domani non potranno tornare più gli altri. Chiaro. Questo è vero, anche l'immagine di ieri, cioè si presenta con 4 giovanotti in camicia bianca che la gente non conosce. Guardate, come dire, il futuro è questo, non i Bersani, non i D'Alema. Questo per gli italiani è un punto di fondo. Allora il vero problema, bisognerebbe capire, dov'è datemi una Boschi tra i sindacalisti, datemi una Mogherini tra i giornalisti, dove c'è una casta che i politici scansati, cioè altro che casta dei politici, ecco, diciamo così. I giornalisti sono sempre gli stessi. Dateci una Pinotti tra gli economisti, che le sbagliano tutte da sempre, tutte quante le previsioni. Datemi una Madia tra i burocrati, che sono sempre gli stessi e stanno sempre là. Guardate, per dirla anche in riferimento all'ascoltatrice di prima, guardate che qui gli unici che stanno cambiando, lasciamo perdere un attimo Renzi, sono i politici che hanno avuto la forza di avviare un processo di autoriforma, si sono votati l'abolizione del Senato, è chiaro? Ma io, a proposito degli italiani, che non sono tanto creduloni, gli ariani sono più furbi. Io voglio vedere cambiare, appunto, sindacalisti, giornalisti, economisti, burocrati. Sì. Voglio una nuova Italia. È chiaro, una nuova perché Italia. Quello è il punto vero. Sentiamo Antonio da Latina. Buongiorno, Antonio. Buongiorno a tutti voi. Guardi, Velardi è eccezionale. È proprio l'esempio della politica di cui l'Italia proprio non ha bisogno. Uno che parla di marketing invece di parlare di balle colossali. Uno che parla di riforme quando il Senato andava abolito, secondo Renzi, è stato svuotato dei suoi poteri e i costi sono rimasti gli stessi. La stessa cosa dicasi per le province. E dà dei furbi agli italiani. Gli italiani sono dei creduloni. Dei creduloni. E a Velardi, sì, assolutamente sì. A Velardi do un altro messaggio da girare a Renzi. L'economia non ripartirà mai. E glielo spiego io perché. Perché gli italiani sono stanchi di ammazzarsi di fatica, di pagare tasse esorbitanti, per poi sentire stipendi di dipendenti pubblici che possono essere magistrati, che possono essere alti dirigenti, assolutamente ingiustificati. Ingiustificati in che senso? E sono altissimi. Altissimi. Sono altissimi, per quello che fanno sì. Ma come, Antonio, ma se c'è tutto il dibattito, comunque la ringrazio per il suo intervento. Guardi, mi dà, come si suol dire, un assist al bacio a proposito di calcio, se si vuol parlare con una metafora calcistica, visto che parla di stipendi della pubblica amministrazione, dice sono altissimi, immagino in media, quelli alti, perché in realtà c'è una grande polemica per il blocco degli stipendi della pubblica amministrazione, per i quali le forze dell'ordine sono molte. Mi veniva così, Gianni Tonelli, proprio mi sta venendo incazzate. Siamo risentite. Ecco. Gianni Tonelli è segretario del SAP. Intanto però vengo da lei, arrivo da lei dopo il traffico. Devo salutare Mario Giordano, direttore, sai che nel salutarti, sai cosa ha detto lì Pedro Sanchez, lì il nuovo modello, il nuovo toy boy di tutte quelle che votano a sinistra, ha detto a Matteo Renzi la domanda decisiva sull'Europa, la domanda decisiva, l'ho avvicinato e gli ho detto Matteo, ma io ho una domanda importante da fare, ma questo Alessio Cerci è forte? No, ma Alessio Cerci farà malissimo all'Atletico. Perché sapete che Giordano è tifoso Granata Doc e questo Pedro Sanchez, che è tifoso dell'Atletico Madrid, vi ha preso. Posso chiudere un'ultima battuta? Sì, sì. Il marketing è importante, ha ragione Velardi. La politica si è rinnovata perché non poteva fare a meno, perché era ridotta veramente a uno straccio. Però attenzione, noi non abbiamo bisogno di marketing, noi abbiamo bisogno di sostanza e questo è fondamentale. E qui su questo, intanto, nel ringraziarti e salutarti, Velardi invece dice che anche il marketing è fondamentale e poi ovviamente tutto da concretizzare, ma ci vuole del tempo. Ma dopo il traffico siamo con Claudio Velardi e anche con Gianni Tonelli, lo ricordo, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia, forze dell'ordine che sono arrabbiate per quello che è successo, il blocco alla pubblica amministrazione. Allora, intanto Gianni Tonelli, ci aiuti a capire una cosa, visto che da giorni si parla di possibile sciopero, quando tutti sappiamo che i militari non possono scioperare per quel che riguarda i carabinieri, la polizia neanche può scioperare. Neppure. E allora voglio dire, già sgombriamo, che cosa potreste fare? No, infatti noi non lo abbiamo come SAPRE, come consulta dei sindacati autonomi delle forze di polizia, noi la polizia penitenziaria, la polizia forestale e i vigili del fuoco, che siamo il primo organismo rappresentativo nel comparto sicurezza, non abbiamo minacciato lo sciopero. Noi siamo in piazza permanente, siamo nella piazza Montecitorio con un presidio permanente fino al 26 di questo mese, stiamo girando con un camper in tutta Italia perché abbiamo le nostre proposte per recuperare soldi e per anche nel nostro settore. Insomma, non è uno sciopero, ma un corpo di polizia che fa un presidio, già è un qualcosa che... Ma voglio dire, tutto ciò che nella liceità ci sarà consentito lo faremo, perché come forza dell'ordine, per ribattere alla persona che prima era intervenuta, dico questo: per finanziare un'infinità di sprechi e anche di privilegi nel settore pubblico, purtroppo noi paghiamo una doppia penalizzazione. Guarda che però c'è il cellulare che va e viene, Tonelli, certo. Ci avrà... sì. Adesso sì, perfetto. Sì, adesso perfetto. Il mercato del lavoro europeo stabilisce che noi siamo sottopagati rispetto a un francese, un poliziotto prende 1700 euro, un bob inglese ne prende 2000, noi prendiamo 1200 euro. Primo. Seconda cosa, oltre ai contratti, perché questo è quello che ha creato il grosso problema, noi abbiamo un tetto salariale che è penalizzante per la dinamica atipica che è solo delle forze dell'ordine e dell'esercito. illecito e che ci penalizza doppiamente. Se io da agente, per spiegarlo in maniera molto semplice, faccio un concorso interno e divento ispettore, vengo di studio per conto mio, mi pago i miei studi, altro, sì, divento ispettore, alla fine mi pagano come agente. Però oggi, oggi racconta il Messaggero, mi scusi, che sarebbero pronti come mediazione 80 milioni per coprire almeno 50.000 persone, cioè quelli che, a prescindere dall'avanzamento di grado di carriera, aspettano il raggiungimento degli scatti di chi ha 17, 27 o 32 anni di servizio. Insomma, un una tantum almeno per il 2015. Sì, questi dati infatti glielo ho dati il Messaggero, ma voglio dire, infatti a mio parere peggiorerebbe la situazione, perché sanerebbe alcune posizioni fino al 31 di dicembre. Chi invece matura quelle posizioni dal 1 di gennaio si troverebbe a bocca asciutta. Andrebbe, questo salterebbe la guerra dei poveri, che non avrebbe nessun significato. Questo è un errore che è stato fatto, sì, dai nostri vertici e dai nostri ministri di riferimento, che avevano il dovere di segnalare, stigmatizzare una atipicità di posizione che era meritevole di, sì, essere però considerata. Il dato di fatto è questo, e vorrei coinvolgere Claudio Velardi, che appena si è fatta una cosa che per la verità hanno fatto altri governi anche in passato, il blocco dei soldi della pubblica amministrazione, vede che appena Renzi ha detto una roba così, subito che succede? Le forze dell'ordine che si arrabbiano, e altre anche categorie, piano scuola, e subito piazzato lo sciopero della scuola. Vabbè. Il punto è quello, il punto è intanto, sì, però se non lo fa Renzi, cioè chi se ne frega, proceda come un carro armato se è convinto che sia... È con un carro armato, naturalmente, avendo di fronte l'Italia che resiste ai cambiamenti. E noi abbiamo appena sentito parlare, un poliziotto dice che sta girando in camper per l'Italia. E io i poliziotti li voglio vedere per strada, non voglio tanti sindacatini nella polizia. Questo esiste solo in Italia, altro che la differenza di salario con l'Inghilterra. Solo in Italia esistono 6 forze di polizia: guardia forestale, guardia di finanza, polizia penitenziaria, guardia costiera, polizia, carabinieri. Siamo un paese di matti. Su questo credo che Tonelli sia d'accordo. Su questo però Tonelli credo che sia d'accordo. No, non è che sono d'accordo, sono d'accordo. Primo, non sono sindacatino, siamo il primo sindacato. Vabbè. Secondo, sono, voglio dire, anni, 25 anni personalmente, ma il dottor Milan sa perfettamente questo, che sono già stato ospite a discutere queste cose nella sua trasmissione, e noi stiamo promuovendo proprio una riforma, e la nostra, noi abbiamo la ricetta, 7 forze di polizia, no grazie, abbiamo aperto un sito proprio per sottoscrivere e ho capito, ma in realtà rimarranno sempre motivo. 7 rimarranno per quale sempre motivo? Ma ci non lo so coraggio. Per quale motivo, perché ci vuole del coraggio, cioè, lei quale toglierebbe se ma fosse Renzi? Si possono accorpare, io so che 8 centrali operative non servono a niente, sì, se ne può benissimo fare un numero unico, tra l'altro paghiamo una penalità di 178.000 euro al giorno all'Europa perché non abbiamo ancora realizzato il numero unico. Ovvio. È inutile servire 8 caserme, 7 uffici amministrativi contabili, 7 mense, 7 uffici automezzi, 7 uffici vestiari, vanno accorpati gli apparati logistici. E poi voglio dire, se ci guardiamo nel panorama delle forze, secondo lei però Tonelli, se Renzi, sì, domani dicesse ok accorpiamo, non ci sarebbero resistenze? Ma sì, sono i vertici infatti. Il problema è questo, sono i privilegi di cui abbiamo parlato prima, cioè perché ci sono persone che hanno posizioni di carriera, di economiche, prebende e quant'altro che tendono a conservare. Stia sicuro che la maggioranza delle persone non hanno, ma qui bisogna avere la forza di guardare avanti e di dire c'è un interesse collettivo del paese. Io non mi oppongo al cambiamento, anzi, alla faccia del NIMBY, noi vogliamo che nel nostro orticello entrino con i bulldozer per veramente scoperchiare tutto, sì, perché io sono 25 anni e so perfettamente che ho i problemi che ho iniziato quando ho intrapreso questa attività sindacale, me li trovo tuttora a causa proprio di questo, perché questa è la madre dei nostri problemi. 25 anni dopo, è così, Velardi, questo io non lo so, tutte le volte che parliamo poi mi dà l'idea di un'Italia così irriformabile, ma non voglio fare il gufo, Velardi. No, io invece arrivo ad un'altra conclusione, sì, non gufesca, diciamo, sì, questo groviglio, questa selva di problemi che sembrano inestricabili, si risolve solo se si crea uno spirito collettivo nuovo, per certo, cui il sindacato di polizia non dà battaglia quando, perché io magicamente lo vedo apparire solo quando si parla di blocco degli stipendi della pubblica amministrazione, sì, mentre invece vorrei vederlo di più sulla riforma dei corpi di polizia, lì vorrei vedere i presidi, lì ci andrei pure io insieme a loro a fare i presidi per unificare le forze di polizia o le centrali operative. operative in Italia, è chiaro? Allora ci vuole uno sforzo collettivo. Noi abbiamo adesso un leader che l'Italia guarda con fiducia, lo dicono i numeri, su questo non ci sono santi. Adesso invece di stare lì a fare i gufi, a protestare, ad avere riserve, a contrarietà, a organizzare scioperi e manifestazioni, dovremmo, come dire, stringerci intorno a lui, ma non per lui, perché a lui di noi non frega niente. Renzi deve essere solo uno strumento che l'Italia utilizza per cambiare. Se è in grado di farlo, però bisogna farlo collettivamente, insieme. Questo, lui da solo non ce la fa. Questo sì. Allora, Tonelli, come finirà questa storia? Guardi, io per rispondere, forse qui c'è un malinteso. Sì. Io parlo come sindacato autonomo di polizia e come consulto, cioè il primo organismo. Noi vogliamo essere a fianco assolutamente, essere una risorsa per il presidente Renzi, una risorsa tecnica, perché sappiamo perfettamente com'è il nostro settore e abbiamo le idee chiarissime per riformarlo e per risparmiare fino a 4 miliardi all'anno nel settore, risparmiando uomini, mezzi e quant'altro. Il problema è uno: sapete perfettamente che internamente al nostro paese ci sono tutta una serie di entità, di lobby corporative che cercano di mantenere lo status quo per mantenere i propri privilegi, perché il cambiamento comunque è destinato a spazzare via tutto. Io sono proprio questo, io non sono in piazza con i camper dicendo abbasso qui, abbasso là, voglio lì, voglio là, no. Sette forze di polizia, no grazie. Meno sicurezza, più sicurezza, meno tasse. Questo è il nostro messaggio, perché fino a quando rimane un sistema del genere, i cittadini pagano più tasse, le imprese pagano più tasse, a noi ci tagliano lo stipendio e non riusciamo ad avere dei parametri di sicurezza come dovrebbero essere. Nel ringraziarvi vorrei sentire anche Giorgio da Verona. Giorgio, ha 30 secondi. Buongiorno. Però, gentilmente. Sì, ecco, voglio dire che bisognerebbe equiparare più il lavoro pubblico con quello privato. Cioè ci sono tanti ricercatori che guadagnano pochissimo e magari farebbero chissà che cosa per guadagnare quanto guadagna un maresciallo piuttosto che un luogotenente. E quindi ecco, prima di dire che no al blocco bisogna stare attenti. Sì. E poi non si può fare il confronto con gli stipendi a livello europeo, perché sappiamo benissimo che in Inghilterra il costo della vita è molto più alto, mentre in Italia sono due anni che siamo in deflazione, per cui non capisco neanche questo problema dell'aumento dello stipendio. La ringrazio Giorgio, noi intanto proseguiamo dopo il giornale radio nel ringraziare Claudio Velardi e Gianni Tonelli per essere stati con noi. Parliamo di province, allora queste province vengono tolte, ci sono, non ci sono, dopo il giornale radio. Cara Sandra, caro Sandro, ti volevo dire una cosa, questo mondo è un mondo veramente corrotto. 24 mattino. Eccoci qua, sono le 9:07, anche questa settimana in onda fino alle 9:30, poi la settimana prossima non più. E allora, cari italiani, ma queste province esistono o non esistono? Sono state abolite, sono state cancellate, sono state riformate? Come dobbiamo comportarci? Lo chiedo perché, come sapete, chi mi segue anche su Twitter, sul profilo Alino Milan oppure qui in onda, noi contiamo le settimane decisive, cosiddette decisive, per l'abolizione delle province. Siamo alla 71esima da quando Enrico Letta, per ottenere i voti come premier, dopo lui è arrivato Matteo Renzi, ma Enrico Letta 71 settimane fa in Parlamento chiese e disse: aboliremo le province. È anche un po' la presa in giro per un certo sistema di informazione che spaccia per settimana decisiva tutte le settimane in Italia, quando si sa che in Italia tutto si muove con la velocità di un pachiderma e quindi non succede nulla, o comunque succede tutto coi tempi dovuti. Parliamo di province, lo facciamo con il presidente dell'Unione delle Province d'Italia, che è il presidente della provincia di Mantova, Alessandro Pastacci. Buongiorno e benvenuto, presidente. Buongiorno Milan, buongiorno ai radioascoltatori. Così come saluto Sergio Rizzo del Corriere della Sera, ben ritrovato Sergio, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Visto che tu ne hai parlato anche settimana scorsa e hai dato ai lettori, hai fornito dei dati molto interessanti presi da una ricerca di Nomis, ma tra poco li vedremo. Intanto Sergio, come ci dobbiamo comportare? Le province sono abolite, ci sono, non ci sono? Ci sono. Sono ancora vive e vegete. Ma questo perché, come tu ricordavi, ci si muove in questo paese con la velocità del pachiderma, e quindi ogni provvedimento poi ha bisogno di decreti attuativi. Naturalmente è una materia molto complessa questa, perché qui parliamo di di organismi che sono stati creati in 150 anni, forse anche di più addirittura in alcuni casi, di derivazione francese, quindi c'è tutta una storia dietro le province che fa sì che queste strutture siano fortemente radicate, no, nel territorio, insomma è complessa l'operazione. No, ma è chiaro, per esempio è complesso anche solo partorire i cosiddetti decreti attuativi. Credo che giovedì 11 settembre, tu hai scritto, è un termine così annunciato anche dal ministro Lanzetta per partorire questi decreti attuativi per rendere efficace la riforma del Rio. Sì, sì, appunto, bisogna vedere cosa ci sarà lì dentro, perché poi sai, le leggi in Italia dicono, stabiliscono dei principi, ma poi quando si va a tradurle in pratica c'è sempre magari la sorpresa, quindi io non sono in condizioni di anticipare nulla perché non lo so oggettivamente, so però che l'11 settembre, giovedì, dovrebbero essere finalmente sfornati questi provvedimenti e poi vedremo che cosa ne sarà delle province. Vedremo che succederà. Intanto, Presidente Pastacci, le province esistono, lo dimostra il fatto che lei è Presidente della provincia di Mantova, nonché Presidente dell'UPI, dell'Unione delle Province Italiane. Cosa cambia per gli italiani? Cerchi di spiegare e di farci capire come può cambiare con questi enti di area vasta, con le nuove province che saranno. Guardi, intanto dobbiamo dire che le province con la legge, con la riforma del Rio rimangono con molte funzioni simili a quelle attuali, questo è il dato, perché nelle funzioni fondamentali sono stati reinseriti tutta una serie di attività e di funzioni che devono essere però oggetto di decreti attuativi, che però riguardano attività come la gestione delle strade, costruzione delle strade, gestione degli edifici scolastici, quindi attività ancora di grande peso. Cambia, importante, quello dell'elezione di secondo livello, quindi 72 enti tra città metropolitane e province andranno al voto tra il 28 di settembre e il 12 di ottobre. Non voteranno i cittadini, però. Non voteranno più i cittadini, ma voteranno i consiglieri dei comuni che fanno parte della provincia e i sindaci, e il presidente sarà un sindaco del territorio provinciale. Perfetto, quindi non ci saranno i consigli provinciali, tanto per capire. Ci saranno i consigli provinciali, che saranno composti da comuni, da consiglieri o sindaci, ma nella prima tornata potranno ricandidarsi anche i consiglieri provinciali uscenti e di presidenti uscenti. Però devono essere ecco, per esempio il Fatto Quotidiano, Presidente, sì, criticava la scorsa settimana dicendo col fatto che i nuovi eletti, cioè i presidenti delle province, i consigli provinciali, verranno eletti non più dagli elettori ma dai sindaci o dai consiglieri comunali della provincia su cui insistono, quasi è peggio, cioè non molto cambia, perché anche lei dice che le funzioni rimarranno le stesse, e in più ci hanno tolto perfino il voto popolare. Sicuramente si sta verificando che viene vissuta come un'elezione vera e propria, con liste diverse, in alcuni casi avevano in alcune province auspicato un'unica grande lista, considerando l'ente un ente amministrativo e non più un ente con una partecipazione politica. In realtà si stanno formando delle liste di sindaci di partiti diversi, per coalizioni, in più le liste che si candidano per il consiglio provinciale saranno sganciate da quelle che si candidano per il presidente, quindi insomma c'è anche un po' di confusione che sta aleggiando nelle 64 province che vanno al voto. Interessante. L'impianto normativo è questo, insomma. Interessante. No, ma perché qui adesso chiariamo subito, Sergio Rizzo, ci accusano, se uno critica ti accusano di essere un gufo, se uno dice che le province vanno cancellate ti accusano di volere affamare i dipendenti delle province, che male facciamo. Io non ho niente contro le province in sé, ma se per anni mi sono sentito dire aboliremo le province dal primo politico che viene eletto, come primo giorno dichiarazione dice questo, io mi attendo, Sergio Rizzo, dimmi se sbaglio, come cittadino italiano, che ciò che viene detto venga fatto, se no non lo dicevano e quindi stavamo con le province a posto, o no? No, qui bisognerebbe, sarebbe interessante andare a rileggere tutte le dichiarazioni che sono state rese da politici di ogni schieramento, attenzione, da 10 anni a questa parte, no? E quindi tu hai perfettamente ragione, però è interessante quello che dice il Presidente Lupi, perché io ricordo di averlo anche ventilato in un articolo recente che ho fatto sempre su questo momento, cioè il fatto che questa elezione di secondo livello, no, potrebbe rischiare di diventare di fatto un'altra stranissima partita politica, no? Certo, perché tu metti il sindaco tuo. Ma perché poi in Italia succedono delle cose veramente singolari, no? Dove tutto, la politica si infiltra dappertutto, anche dove non deve andare a parare. Per esempio, in Toscana si vota in consorzi di bonifica, che è un'altra di quelle cose, cioè, veramente inverosimili, secondo me, perché il consorzio di bonifica, come la nuova provincia, secondo, diciamo, la riforma del Rio, dovrebbero essere fondamentalmente delle agenzie tecniche, cioè non degli enti di rappresentanza popolare, non so come dire, no? Mm-hmm. Invece in questo paese poi finisce che tutto, no, va in cavalleria, no? E la politica, che la politica intendiamo quella che, diciamo, che non sana, no? Sì. Viene estromessa dalla porta, per poi rientrare dalla finestra, no? Ma anche questa vicenda, Sergio, dell'elezione fatta per cui ci sono i consiglieri provinciali, ci sono i presidenti delle province, certo non vanno gli elettori a votare, e viene detta come dire: vedete, almeno risparmiamo i soldi delle elezioni e i gettoni magari dei consiglieri provinciali. Ho capito, ma non è forse quasi peggio? Cioè, se mi devi lasciare qualche organismo, almeno fammelo votare a questo punto. Il rapporto Bordignon, di cui si è a lungo parlato, quello sui costi della politica che non volevano pubblicare, poi è stato pubblicato, per capirci, quello che era stato prodotto, no, su incarico di Cottarelli, sì, certo. E lì dentro a un certo punto c'è un passaggio in cui si dice: ma perché non si fa una scelta diversa, radicale? Perché non si dice: le province le chiudiamo e diamo tutte le funzioni alle regioni, dopodiché le regioni a loro volta decideranno quali tenere e quali attribuire ai comuni. Io non lo so se questa sarebbe stata la scelta più opportuna. Chissà, lei presidente... Però purtroppo questo è anche il frutto di una mediazione che è stata fatta, no? Che non ci dimentichiamo che il cosiddetto partito delle province, no? Sì. Poi mentre tutti dicevano che bisognava abolirle, cioè, invece era una... Ha lottato. Non so, presidente Pastacci, lei disconosce questa idea del partito delle province? Che... Ma no, guardi, il partito delle province non esiste, perché una volta che stanno approvato il 7 di aprile la legge del Rio, che era la legge che è stata comunicata a tutta Italia come la legge di abolizione delle province, in realtà non è una legge di abolizione delle province, è una legge che rivede il sistema di elezione, ma molte funzioni le mantiene, come rivede delle funzioni che vengono tolte e devono essere trasferite alle regioni e ai comuni. Sì. E qui sta il nocciolo della Linghippo questione. Devo cambiare il tweet: la 71esima settimana decisiva per la revisione delle province. Dovevo mettere così, ma han fregato così. Allora continuo a contare quella per l'abolizione. Però le aggiungo che è dal 7 di aprile, il giorno dopo l'approvazione di questa legge, abbiamo detto: benissimo, adesso la legge va applicata subito, perché altrimenti si continua a dire che le province sono abolite, in realtà mantengono le funzioni, però i governi continuano a togliere le risorse, e quindi questo diventa un problema. Allora, ma no, tra l'altro tra poco ci concentreremo anche sui dipendenti delle province, perché Sergio Rizzo ha scritto delle cose molto interessanti sul Corriere della Sera di settimana scorsa. Però vorrei sentire ascoltatori. Francesco da Bergamo, buongiorno, è caduta la linea? Sì. Massimo da Verona, buongiorno. Buongiorno. Niente, è stato chiarito quello che io volevo dire, cioè che si procederà lo stesso all'elezione del presidente. Sì, però certo, in modo diverso rispetto a prima. Ma... Questo è ancora più irritante per il cittadino che non va più a votare. Io ho fatto per 10 anni politica, ma ci si chiede perché di nuovo un presidente... i vari consiglieri, non basterebbero una o due persone, ok, se si tratta di amministrare il passaggio delle competenze alla regione, questo è, ma veramente... Sì, io le toglierei neanche uno o due persone, appunto, Massimo, cioè sì, certo, va fatta una gestione per passare tutte le competenze attualmente alle province, vanno ridistribuite tra comuni e regione, questo sì, però dice, se effettivamente rimane un po' stranito il fatto che ci sono delle elezioni che rimangono in vigore. Francesco da Bergamo, l'abbiamo recuperata? Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno. Dica. Buongiorno. Allora, io sono un consigliere comunale di un paese nell'Interland di Bergamo. Sì. La cosa che sta succedendo adesso è questa, che oltre a non far votare i cittadini, cosa che ormai è risaputa e ormai sanno tutti come sta andando, il problema qual è? Che i partiti grandi, quindi PD e Forza Italia, e ci fermiamo qui, si stanno spartendo i voti, mentre tutti quelli che sono presenti nei paesi e anche, mi lasci dire, in alcune città come liste civiche non vengono praticamente... Ma mi scusi, cioè spartendo i voti in che senso? Cioè Francesco, lei voterà in quanto consigliere comunale, dovrà... E infatti Forza Italia e PD ci stanno tirando la giacchetta da una parte e dall'altra, perché ovviamente un voto in più, un voto in meno contano, e chi come me non è schierato politicamente ma fa parte di una lista civica come la stragrande maggioranza dei paesi adesso nella provincia di Bergamo, sì, penso, sì, praticamente ovunque, viene tirato dalla giacchetta dagli esponenti dei vari partiti, perché voglio dire, d'altronde il politico che prima veniva eletto a presidente della provincia, invece di chiedere il voto agli elettori, ora Sergio Rizzo deve andare a chiederlo ai consiglieri comunali dei vari comuni. Bisogna sempre è più facile, nel senso che fare devono cercare di convincere qualche migliaio di persone invece che qualche centinaio di migliaia. Diciamo che ci si sta avvicinando alla tecnica delle nomine nei consigli di amministrazione delle società, esatto, no? Esatto, è un po' così. Quindi, diciamo, perché questo dimostra la dimostrazione che la politica, diciamo, la politica quella che non, insomma, che dovrebbe stare lontana, invece no, si avvicina, queste cose si avvicina. Però no? I dipendenti, allora, sono 47.862 i dipendenti delle province, secondo uno studio Nomisma che tu hai citato mercoledì scorso. 20.593 di questi dipendenti, ripeto, 20.593 sarebbero di troppo nella nuova geografia delle province. Ovviamente sono dipendenti pubblici. E ovviamente, aggiungo io, non voglio affamare nessuno, questo lo dico tutte le volte che mi accusano di volere mettere sul lastrico le persone. Però, Sergio Rizzo, perché queste persone devono essere riallocate quando magari nel privato drammaticamente verrebbero lasciate a casa? Questo bisognerebbe chiederlo diciamo a tutto quel complesso di situazioni, di normative che fanno sì che dipendenti pubblici godano di prerogative di cui non godono i dipendenti privati. Questo è un problema di carattere generale, insomma, no? Non è certo, un problema certo, che riguarda le province. Il caso delle province invece è interessante, perché questi 20.593 dipendenti, attenzione, sono soltanto le 15 regioni a statuto ordinario, perché poi qui si apre tutta un'altra pagina, che è quella delle 5 regioni a statuto speciale, dove la normativa prevede cose completamente diverse, cioè che si devono adeguare entro un anno, però lo fanno in modo autonomo, quindi anche lì sarà possibile assistere a delle cose che, insomma, non vedremo dalle altre parti. Bene, questi 20.593 dipendenti dovrebbero essere trasferiti o ai comuni o alle regioni, però il punto è che andrebbero a svolgere, da quello che ho capito, perché poi bisogna leggere questi benedetti decreti attuativi ancora che non abbiamo, andrebbero a svolgere delle funzioni del tutto simili a quelle che svolgevano quando erano nelle province, e spesso sono funzioni che sovrappongono le funzioni che già hanno le regioni. Ma infatti, Io su questo, scusami, è una cosa che non capirò mai, perché vorrei coinvolgere il presidente Pastacci. Si è sempre detto: ma non bisogna togliere le province, perché se noi spostiamo le competenze delle province alle regioni e ai comuni si vanno a perdere queste competenze. In realtà ci sono questi 20.593 che vengono riallocati alle regioni, potrebbero fare quello che facevano quando erano in provincia, e queste province cancellarle. Basta il presidente eletto dai sindaci, dei sindaci dell'Interlato, o no Pastacci, è troppo complicato. Una cosa semplice, è caduta la linea. Forse le cose semplici spesso sono complicate. Sergio Rizzo, lo chiedo a te allora. Sì, anch'io sono di quel parere lì, perché oggettivamente se tu nel 1970 hai deciso che l'articolazione dello Stato cambiava con le regioni, e le regioni sono in contrasto da un punto di vista ordinamentale con le province, no? Come, diciamo, ente di rappresentanza, perché la provincia è il tipico di un ordinamento centralista francese, no? Mentre le regioni sono tipiche di un organismo più, diciamo, di un'organizzazione più federalista, no? Tipo come dire la Germania, insomma. Quindi sono due, diciamo dal punto di vista concettuale, due organismi che sbattono. Dopodiché che ci siano degli enti di area vasta, perché l'Italia ha un territorio particolare, dove oggettivamente ci sono delle situazioni dove con 8.095 comuni, spesso piccoli, spesso male organizzati, diciamo, magari serve un qualche cosa che unisce, no? Determinate funzioni, questo è un altro discorso, però dal fatto di dire elaboriamo e poi in realtà farle sopravvivere sotto una forma diversa, un po' strano. Abbiamo recuperato la linea con il presidente Pastacci. Presidente, sì. Intanto lei ci conferma, sì, che anche secondo lei questi 20.593 in più in esubero con le nuove province vanno tutti riallocati? No, guardi, intanto i numeri di quello studio che abbiamo appreso dal Corriere della Sera sono numeri che si rifanno al 2010, quindi in un periodo che ormai è lontano anni luce, perché da allora c'è stato il blocco delle assunzioni, c'è stata a seguito di tutti i tagli che sono stati portati alle province in termini finanziari per espletare i servizi, sono state riviste le piante organiche. Quindi sono meno. Quindi, quindi va rivisto completamente, perché naturalmente che le province si sono via via in questi anni concentrate sulle attività fondamentali che tra l'altro rimangono anche nella del Rio, quindi e nella riforma, quindi questo va rivisto completamente, ma la legge non taglia le funzioni, quindi le funzioni che vengono trasferite ad altri enti necessariamente avranno il personale che li segue. Poi saranno gli e altri. Allora che cosa serve avere la provincia con il presidente? Cioè, parliamoci chiaro, serve perché c'è in Costituzione, perché andrebbe cancellata subito se no? Probabilmente sarebbe stata necessaria prima una riforma costituzionale e a seguito alla riforma costituzionale una serie di leggi di riorganizzazione della macchina per la gestione del territorio sui vari livelli. Perché lei ci sta dicendo che il personale delle province verrà riallocato in comuni e regioni e continueranno a fare quello che fanno adesso in provincia. Rimarranno, una parte rimarrà in provincia, poi con i decreti attuativi che ancora non abbiamo visto e che stiamo sollecitando dall'8 di luglio quando dovevano uscire, vedremo quelle funzioni che le regioni trasferiranno comunque alle province, sì, e quindi alla fine si vedrà qual è il personale che eventualmente si sposta in qualche altro ente. No, perché spesso, si diceva non si possono cancellare le province perché fanno funzioni specifiche, e invece il personale, parte del personale continuerà seppure in regione a fare quello che faceva prima, quindi si potevano svuotare come ente. Ma questo dipende anche dalla compatibilità costituzionale che oggi c'è nel nostro impianto. Quindi il problema è che comunque oggi nelle province rimarranno funzioni fondamentali e quindi l'analisi dei numeri andrà fatta dopo. È naturale che tutto personale, anche per alcuni settori molto professionalizzato come quello tecnico, dove non si possono prendere tre ingegneri emessi in tre comuni, perché qui svolgono una funzione che può essere invece al contrario a supporto di tante attività da concentrare sull'ente per i comuni, comuni di piccolissime dimensioni che non hanno la capacità casomai di progettare in autonomia, sì, e quindi questo invece diventa anche riuscire a ottimizzare tutta una serie di funzioni, quello che era stato auspicato. E le dico l'ultima cosa, il problema è anche che il trasferimento alle regioni oggi vede una situazione delle 15 regioni a statuto ordinario molto diversificata, dal Molise che ha 315.000 abitanti alla Lombardia che ne ha 10 milioni. È un problema, quindi situazioni è un problema molto diverse. Infatti in Francia hanno iniziato la riforma con la riduzione delle regioni da 22 a 14. Sentiamo Enrico dalla provincia di Arezzo. Buongiorno Enrico. Buongiorno, io ho sentito tante cose, sì, che fanno un sacco di fumo per confondere le idee alle addirittura persone. Sì, perché ho sentito Rizzo che parlava di riforme con le province legate al territorio francese e tutto. Io, secondo me, la storia della provincia è solo la solita fuffa che si sono inventati i politici per non andare a toccare il vero problema. Il problema sono le regioni, e posso argomentare con delle cifre. Argomentare no, guardi, perché, Enrico, purtroppo no, purtroppo argomentare no, perché sforo, non perché le voglio togliere la parola, mi perdoni. L'abbiamo detto tante volte, è vero, il problema sono le regioni, ma siccome, come dice lei, sarà fuffa o no, i politici, tanti politici ci hanno detto aboliremo le province, è uno che deve fare, aspettare che facciano quello che dicono. Quando se avessero detto aboliremo le regioni, eravamo qui a fare una trasmissione a dire ma perché non aboliscono le regioni. Comunque staremo a vedere in settimana i decreti attuativi, ma chi lo sa, io continuo a contare. Ringrazio Sergio Rizzo del Corriere della Sera, Alessandro Pastacci, presidente della provincia di Mantova e presidente dell'Unione delle Province Italiane. L'appuntamento è rinnovato a domattina con Miriam Lucchetti, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e col nostro Peter Bescapè in regia. Domani 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.